E beh, cosa ci racconti di bello, Giuseppe? Perché tutto il giorno andando e tornando qui nel Mitterland sassarese, si andava di sopra, si andava di sotto, si andava di qua e si andava di là. Mi hanno tutto quanto immaginato andando e tornando, girando. Ciao, va bene, dai, riprendi la salì. Allora, sopra, sotto, gatta, proprio io non lo so, gatta, perché Giuseppe lo so prendere, travagliato troppo, gatta. Ah, pittina. Oh, Natale, hai già visto anche tu la mattina che mi stavi chiamando, e poi avevo un baracchino, un barattesante, mannaggia. Hai visto anche che sempre in giro, preso sullo zingaro, di su, di giù, di qua, di là, rollando da tutte le parti, tu? Tu carri poi di me, ando da Giubizio, c'è una vi poco di roba in alto, perché il telone si vede da dietro, io dietro di te ero, e ti chiamavo Giuseppe, tu non rispondi, io credo, era il tavaracchino. Che cappa la pali, guarda, carico o zero carico, perché dovevo fare Olbia e poi andare giù e fare due, tre scariche alla Rosachena. Però, qua, credimi, ti avrei voluto rispondere, non al 100, no, al 200%, però veramente ero senza l'apparato in barra pesante. Ma come potevi tagliare la strada, mannaggia tu, lì, nella rotatoria che avevamo inchiodato alla grande? Ma chi c'è tuccio? C'è poco doccio su te assi, no. Io non so come te mi avrà detto, se posso mi avrà detto che ti cagavi la stessa, sei mandato al ghetto. Gesù Cristo mio, cazzo, io ti dico non che posso più, tu sei un pericolo pubblico. Cazzo, c'è la dico come vieni, però è un pazzo, guidato. Se tu siedi con mio fratello ti spaventi, Giuseppe. E cappa di positivo, Natali. Allora bisogna mettersi di montagne di maniera quando ci si siede con tuo fratello, cambio. Coraggio, cazzo, un pazzo furioso, Ehi, un pazzo furioso. Ma ci trovo almeno che nel traffico, tranquillo, che il traffico io non acciappo mai, ero grido, a chi passa un dino di baffè passa pure un ruio, ogni avari da cudi a giudizio. Mamma mia, allora guarda, non ci stavi proprio in poco, voluto sedere in una palmi. Chiso di base, in invece di tre anni in una lì, mamma mia. Ma è diventato un pizzetto più bianco, Giuseppe, non mi credi tu? Io, gatta, so che un riso cantava forse più forte, però quello è un pazzo, non sa cosa fa quando... Perché non è possibile, io... Perché ho portato le ambulanze, vabbè, quando io portavo le ambulanze c'era la sirena e allora passavo dove non dovevo passare, però con cognizione di causa, sempre tenendo attento, compreso, un dimmi dove io fermavo e fermavo un attecci, e balla. Sì, capa Natalini, su quello hai perfettamente ragione, perché quando si ha giustamente il giusto coso, mi hai capito, sirena accesa, lampeggianti accesi, l'ho fatto anch'io il, diciamo, l'ambulanziere, il servizio, qualche cosa l'ho fatto anch'io, per l'amor di Dio, però in camion no, dai, quello no, perché lì bisogna avere un attimino le cose, le idee chiare. Avanti, perché, scusateci se vi abbiamo tenuto un attimino in parcheggio, dai, avanti. Positivo, si sentono voci della tua 25 con la bambina, dai, niente di particolare. Ok, dai, è così purtroppo, quando si usa l'ambulanza è un'ambulanza, però quando si usa un mezzo civile le cose cambiano, Giuseppe, dai, riprendi. Io qui ho due tigri, domani devo andare a Palino, aiutami anche tu, signor Palchetto, devo trovare un gatto a nove code, perché devo domare questi due tigri che ho qui, che mi stanno circolando dietro alle spalle adesso, cosa devo fare? Mi sa che devi devi stare attento, perché sono tigri femmine, sono più cattive quelle. No, se vanno lunghi, Natale, cicchia! Si ti intende niente. No, già ce l'ho qui a fianco, qui a fianco, mia moglie e la piccolina. Ma mi sorprendi a segno, fai che cosa devo fare io? Dalle precedenza, Giuseppe, le donne hanno sempre la precedenza. Mannaggia, fai che vieni, mia moglie ha detto bravo, io l'ho già detto, ma mi scudo, tutti e due a terra, mamma e figliola, comincia una iatta molta. No, Giuseppe, quelle cose non si fanno, mi raccomando. Stai attento, poi che quelle c'hanno le unghie e ti graffiano, e sono pericolose, le tigri femmine, ui. Natale, io domani mi prendo la testichita di quella alla distanza, così come si avvicina, non porta la minoretta con la retta, che chi sta giù, quindi, tanto la manna. E la caiuca pure la manna, cara pittina, tu puro, che c'è poco su fittico, capiamo che sei stanco, E da pure c'ho bisogno delle sue attenzioni, gatta, capitina Giuseppe, tu puro. Capa Natali, le sue attenzioni. Andiamo bene qui, su che andiamo? Una scena Giuseppe. Ho visto qui. Oh, fai che? Ma la prossima settimana riusciamo a organizzare. Qualcosina? È positivo, dai. Io guarda, sono pienamente felice se viene anche Natale e compari, dai. Per me non c'è problema, Giuseppe, lo sai. Ma quanto mai? Io guarda, per i caratteri che ho io, ma che? Per me va bene, perché l'importante è che io dico sempre che sia sempre sana. Con mia amicizia e come abbiamo detto la volta che siamo andati a cena assieme, no, che eravamo io, tu, il buon Natalino e il buon Gianni, sempre sana la compagnia, si parla, vedi, abbiamo mangiato e abbiamo chiacchierato, ma che cosa vuoi di più dalla vita? Si sta anche bene, parlare in verticale anche, vedete, esponere le tue idee, magari fa uno, fa uno, io mi metto in prima persona, cacchicazzata, ma ci può anche stare, ci mancherebbe altro. È positiva, adesso tu mi hai tolto il discorso di cosa vuoi di più, io ti posso dire un lucano. È un lucano a te allora. Un lucano vuoi, mannaggia, di che sono nato, un minuto mi ti posso offrire, perché? No, Giuseppe, ho detto, tu hai fatto il discorso, dice cosa vuoi di più, e la battuta si dice un lucano, no? E capa di positivo, vai, fa che anda bene vera, l'importante, guarda, io mi auguro che questa 27 continui così, perché io mi ci sto trovando bene, ti ripeto, ci sono da due giorni, e va bene, anche perché in postazione fissa non l'ho mai voluto mettere, perché me l'avevano parlato in mille modi, sai, io l'ho avuta sempre in barra pesante, anche se sempre con mille difficoltà, no? E niente, poi mi sto accorgendo che si sta bene, quando trovi la compagnia giusta, ti rilassi, hai anche molte volte uno scambio di idee, di opinioni, va bene così, perlomeno per me va bene così. Anche ieri devo dire che ci siamo divertiti e io mi sono trattenuto anche a notte fonda con aiutatemi a dire, con Capridù e Mario. Ci siamo fatti questa bella chiacchierata alla grande. È positivo, no? Ma quando la compagnia è giusta, ripeto, va bene così. E niente, quando la compagnia è giusta fa anche piacere scambiare mezz'ora, un'ora in compagnia, è più che sufficiente. Ok, dai Giuseppe, dai, rilascio il mic a Natalino che è in panchina. Avanti Natalino. Capo, se va in porto una cosa, viene una cosa veramente carina per la 27, perché ci stavamo mettendo d'accordo con Gianni, Bravo 2 no, non è tra più usi, okay? Il buon Gianni Bravo 2, con Gianni Capri 2, che volevamo fare un radioclub praticamente, qua a Sassari. E c'è anche il Salvatore che c'ha anche il locale per poterlo fare, solo che si tratta di mettersi d'accordo un gruppetto di persone che siano serie giustamente, e la cosa va. È positivo, positivo Natale, quello fa sempre piacere, così è già, ma Giuseppe riprende. Capo, è positivo, guarda, io secondo me sia Natalino che Gianni Capri 2, solo per le cose che ho sentito adesso io da Natalino, sono due persone semplicemente da ammirare, e questo lo dico veramente senza nessun problema e senza nessuna retorica, veramente da ammirare dal profondo del cuore, perché effettivamente avere un nostro club qui a Sassari con persone serie, guarda, sarebbe la cosa più grande che noi potessimo avere qui a Sassari, perché effettivamente nessuno ha mai, attenzione a quello che sto dicendo, ha mai avuto un club serio come sono sicuro che Natalino e Capri 2 saprebbero fare, e questo senza nessuna retorica, riprendi tu Natalino. Ma guarda, io ti faccio solo un esempio adesso. Se non era stato per me e Gianni, Doppio Room e qualche altra persona, questa 27 sarebbe morta, perché se tu stavi ascoltando quando eri in barra pesante non c'era più nessuno qua in 27. E praticamente trovavi su 5 solo i camionisti e basta. Ma sugli altri canali non entrava nessuno, Infatti ci siamo messi l'impegno, io e Gianni l'abbiamo tirata su questa 27, hai capito? Se no sarebbe stata morta, e c'è gente che ha gli apparecchi e non c'entra, ma molta gente, o magari chi ascolta solo e non entra perché non gli va, che non trova le persone adatte, capito? Natalino, su quello io sono come mi conosci anche bene a me, mi conosci sia di persona che meno male abbiamo anche avuto l'occasione di anche di parlare, no? Cioè io dico questo, se io dico per le persone che anche io mi sono accorto che c'è tanta gente che ascolta qui, no? Sulla 27, però secondo me forse lo stimolo di entrare, oppure il coraggio di entrare, perché secondo me si ritrova anche gente nuova, no? Però io voglio dire una cosa, io non so se queste persone siano all'ascolto adesso oppure no, però io posso dire sempre che una mano tesa da parte della 27 c'è adesso, e sono sicuro che c'è sempre stata anche negli anni passati, Natalino, hai capito? Anche quando le cose, le frequenze erano intasate, come ho sentito, no? Giorni fa. Però se vogliamo creare una bella 27, come io sono sicuro che tu, Capri 2, Doppio Room e poi non so chi ci sia, la vogliono fare, non avete bisogno di insegnamenti di nessuno, mi hai capito Natalino? Se lo volete fare questo coso qui, io sono il primo a darvi una mano, ma senza nessun problema. Già lo so Giuseppe, non c'è bisogno che lo dici, già lo so questo. È il fatto che si tratta di trovare le persone giuste e mettersi d'accordo. Ecco perché anche io volevo fare la storia di trovarci in verticale a parlare, perché di persona si ragiona meglio, capito? mettersi d'accordo per queste cose qui. Ma lo vedi che anche se vai a... non si trova un PL a Sassi, perché il cazzo era morto e giustamente la gente non faceva arrivare più nulla, capito? Capa Natali, ti posso dare ragione anche, oddio dico tra virgolette, attenzione, purtroppo, perché hai perfettamente ragione, cioè se vuoi cercare un PL da qualsiasi parte, ma io dico un PL buono, un PL serio, o alcuni componenti che possono servire per poter riparare, diciamo, una stazione fissa oppure un baracchino, sai? E qui noi, qui in Sardegna, perlomeno io parlo della provincia di Sassari, perché magari sulla Cagliari qualcosina si può trovare, abbiamo delle grosse difficoltà e me ne sto accorgendo anch'io, e vediamo anche il buon Falchetto cosa ne pensa. Avanti Falchetto. Cappa, io confermo quello che state dicendo perché è la cosa giusta. Io, guarda, sono pienamente felice che la 27 si possa mettere sulla buona strada, in compagnia giustamente di una buona compagnia, come si usa dire. E tutto qua, Giuseppe, io confermo quello che dici perché sono parole sacrosante, ripeti Giuseppe. Prego. Registrato il prete. Sì, perché io ti ringrazio perché dimostrate di essere proprio delle persone serie, serie, belle posate qui che stanno fatto loro su questa benedetta 27 e mi fa veramente piacere. Cioè, è bello parlare, cioè, è bello. Un piacere parlare con voi in verticale perché si possono discutere di mille e una cosa, però altrettanto vi posso dire che è altrettanto piacevole parlare qui dietro il microfono perché è altrettanto, diciamo che è altrettanto bello, cioè la stessa cosa che mi può dare il verticale me lo può dare, ripeto sempre con le solite virgolette, con le persone belle, serie, posate che abbiamo qui sulla 27, dai, e qui faccio subito entrare il prete. Buonasera a tutti, Gianni Doppio, vi stavo ascoltando perché mentre vi ascoltavo mangiavo una pizza. Cappa. E diciamo che è buono come idea, però quello che temo io è che poi ci riuniamo lì e il 27 non c'è più nessuno. Giuseppe, sei complesso il radio, è molto complesso. Buonasera a te Massimiliano. Cappa, buonasera Giuseppe, sei complesso, eh? E che devo fare io qui? Complesso, allora vediamo un po' di staccare qualcosina. Aspetta un secondo solo. Un po' lo so Massimiliano, guarda me la segnale. Eccomi qua, e adesso come va? Aspetta, vai, di prova. Vedi un pochino come sta rullando adesso il buon Giuseppe, cambio. Andiamo piano, dai. Tu come sono Massimiliano, eh? Cappa, Luca. Cappa. È stato un momento di defaillance. Un lapsus. Un lapis. Avanti, Luca, dai, riprendi tu. No, mi sto mangiando, dai, io sono entrato a dirti. Non ero sicuro, comunque. Io vado a ascolto con questo e sentivo molto complesso. Poi ho acceso l'altro, idem. Ho acceso l'altro, è nuovo l'apparecchio. Diceva molto, molto bene. Perciò era proprio un programma tuo. Io pensavo che era un programma di Maracchino, invece niente, di... Era tutto tuo. Niente, mi lascio il microfono a Natalino, guarda Natalino. Io adesso mi mangio due patate fritte, va. E mangia, col uomo, è la faccia mia. Mangia. Le patate fritte, mangia. Va bene, io. Cosa stavo dicendo? Se Giuseppe prende questo apparecchio che sto usando adesso si spaventa, gatta, precisa quello di Gianni, gatta. Avanti da Perum. Ciao Giuseppe, ciao Luca, ciao Rattalino, Falchetto, e non so se ci sia qualche domanda, comunque saluto tutti cordialmente, dai. Allora, sentito un discorso vostro, è una cosa interessante, si potrebbe anche fare, però bisogna trovare il tempo. pace. Il tempo già si trova. Tu non hai detto di stare sempre al circolo, no? Capito. Uno ci va quando ci può andare. Anche Natalino ha ragione, perché il tutto doppio rum è iniziare, diciamo, no? Poi pian pianino le cose, io dico sempre questo, se uno semina bene raccoglie bene, attenzione. Vabbè, certo. Cavolo, vediamo un po' che si può fare. A me piace perché quando si sta con gente, ma non per essere ripetitivo, attenzione, con gente posata, con gente seria, con gente con cui puoi aprire un qualsiasi discorso e lo puoi mantenere, hai capito? E è sempre bello, cioè ci si ritrova, ci si confronta, ci si scambiano idee, è proprio questo il bello della 27, secondo me, a meno che non stia sbagliando tutto io, attenzione. No, dici bene, dai, anch'io sono d'accordo con te. È sempre, diciamo, la cosa di scegliere gli elementi che entrano e cose, capito? Bisogna anche selezionare le persone. Cappa di positivo al 100% doppio rumbe, su quello guarda, mi inchino umilmente alle parole che stai dicendo, perché quelle sono sacro e sante. Gabba, avanti Luca! E Luca sta mangiando, dai. E poi basta fare una commissione per quelli che devono entrare. In tutte le situazioni si fa così, si mette ai voti chi deve entrare. Gabba, vabbè. Vediamo un po' cosa si può combinare. Secondo me non per essere un tantino vanitoso, e attenzione, perché la maggior parte delle volte bisogna tenere i piedi ben saldi per terra, però sarebbe anche un attimino un gricciolino d'orgoglio, sai, e fondare anche questa storia qui, perché io non so se giù in altre parti, io parlo della nostra regione, qualcuno abbia avuto un'idea del genere. Guarda che c'è già stato il club a Sassari, c'è già stato, solo che come sono entrati in funzione i soldi, come sono entrati i soldi hanno guastato tutto, capito? Come sono entrati i soldi in gioco hanno guastato tutto, perché si tratta di trovare le persone serie sempre. Che cappa Natali, ma non per quello non ci si può riprovare. E quante cose sono andate male perché magari c'era un'amministrazione sbagliata oppure anche delle persone sbagliate. Oddio, tutti quanti possono magari, che ne so, ci si può sempre riprovare, non è un male. Io come ho detto poco fa, come ho sentito quello che ho detto, io più che ammirarvi non posso fare, perché state facendo veramente una cosa che farebbe onore alla città di Sassari, e questo lo dico ma in tutta tranquillità e senza nessun coso, veramente state facendo una bella cosa. Te lo ricordi, sì, organizzavano le cacce al tesoro, tante di quelle cose. Noi ci siamo 30 anni, quindi ne siamo vecchi di queste cose, io e Gianni, capisci? Cappa Natali, io ti ripeto, qui ho avuto proprio le flash di, come ti ho detto poco fa, di piazzare anche la stazione a casa, perché nella barra, meno male, le abbiamo, perlomeno, l'altro mio collega no, perché quello è sempre stato restio, l'ho sempre avuta. Però ho sempre avuto un giro ristretto di conoscenze, mi hai capito? Si parlava tra camionisti, si rientrava qui in sede, si spegneva tutto e via. Proprio perché non è come ambiente, devo essere sincero, non è che mi piacesse più di tanto. Però sono entrato in questo giro e devo dire che un po' di grondolo, se posso, se posso esagerare in questa affermazione, ma che devo dire la verità, ho trovato delle persone per bene, delle persone serie, cioè delle persone a cui tengo, e attenzione, perché Natali, se una persona, con una persona non ci stai bene, e prendi e chiudi, giri un attimino l'interruttore, chiudi e tutto finisce lì, mi hai capito? Però se io ancora ci sono qui, come tante altre persone che ho conosciuto da quando sono entrato, vuol dire che meno male questa 27 che abbiamo fatto anche su questo benedetto canale, meno male sta anche cominciando a funzionare. Ma io vedo, se ci comportiamo bene, riuscendolo anche i radioamatori a parlare qua, da dove sono, perché molta gente se ne andava perché dicevano parolacce, succedevano casini qua, e allora molta gente ha preferito allontanarsi. Ma guarda che ci sono delle persone veramente ok, che io conosco, sono amici, e sono anche radioamatori, questa gente, e veniva a parlare qua con noi. Natali, dai, perfettamente d'accordo con te. E Falchetto, ci sei sempre? Positivo, positivo già. Oh, Giuseppe, sono sempre, dai. E mi stavo ascoltando, sì, è un discorso abbastanza serio, pulito, tranquillo. E così che deve andare la 27. E niente, se si può fare di più, io sono sempre più che contento, Giuseppe. Tutto qua, riprendi, Giuseppe. Ecco. Chiedo scusa un secondo, avanti Gianni, io qui ho un pochino di movimento dietro le spalle. Va bene, abbiamo capito Giuseppe, riprendi già. Proprio rum, un'altra pizza ti sta trafogando. Gli altri stanno diventando veruca, morde e fuggi. Attenzione Falchetto. Dimmi Giuseppe. Attenzione il buon Falchetto Gambio. Dimmi Giuseppe. Falchetto, attenzione sul 21. Eia, io ti copio Giuseppe, vieni avanti. E anch'io ti copio, perché? Ma era per farla più tragica di quanto era. Abbiamo perso il doppio numero. Ah, quello sì, Mi prendi la tariffa. E per quello lo faccio parlare con Muro, io, a questo doppio rum. Natali, ma una volta ci si addormenta questo ragazzo qui, una volta ci lascia così, ma che cosa dobbiamo fare questa volta? C'è un nervo di bue qua, finché non mi metto in macchina lo cerco, che sono figlio della questura, quando cerca qualcuno. Ai titia, è tutto sulle chiappe, mi le facciamo diventare rusci. Fai che mi confermi? Positivo. Se va bene. Oh, mannaggia la marina, se lo cerchiamo di sdrammatizzare un pochino Falchetto e Natali, e quando rientriamo a casa, mannaggia, che cosa vogliamo fare? Oh, Dio mio caro, casa, già è una vitaccia, giorno dopo giorno dobbiamo cercare di sopravvivere, mannaggia, dai, e cerchiamo di sdrammatizzare un pochino, almeno quando siamo qui, mannaggia. Già lo so Giuseppe, oia, mamma mia. E se no la gente malata che ce lo sa, Roberto, perché non stava entrando, perché è ammalato, ci siamo sentiti via telefono stamattina, ed è ammalato. E infatti io avevo una riunione oggi, ma l'abbiamo rimandata perché Roberto è ammalato, Capri 2 è a mal di schiena. Vabbè, la faremo la prossima settimana evidentemente. Cappa Natali, dai, mi spiace per Roberto, sicuramente sarà questo cavolo di virus che c'è nell'aria, guarda, e mi hanno detto che è anche un tantino fastidioso, e Capri 2 sicuramente sarà come noi, perché sai che cosa succede? sai che cosa succede? Che quando ti alzi appena appena che sei sudato dal sedile, è lì che ti fregami. E a me lo dici. E Gian Maria era 15 giorni a letto. Lo sa cosa vuol dire 15 giorni a letto? Beh, c'è molta gente che è ammalata, questo tempo, quest'anno l'ha presa in due. L'ha presa in due a fare tempo brutto, freddo, acqua, di tutto. Ecco, e ho sentito anche che anche la prossima settimana ne siamo pieni di questo freddo, per l'amor di Dio, che adesso basta, ma veramente bastami. E tu fai che freddo o di Dia, come vuoi che lo chiami, come siamo andati oggi? Ah, guarda, Giuseppe, la verità si dica, oggi avevamo 14 gradi e non si stava neanche molto male. Anzi, posso dire che poi invece verso le forse delle 4 e mezzo, 5:15 è iniziata a piovere, a fare quella pioggiarella un po', e lì mi ha dato un po' fastidio, ma la giornatina l'ha già fatta, così che non c'era problema, perché a parte quello, mio principale ha detto, se volete andare via prima, dice, non c'è problema, andatevene via prima, gli ho detto, no, noi siamo qua fino alle 5, non c'è problema, gli ho detto a principale. E lui ci ha guardato, ah, vabbè, fate come volete. È tutto qua, dai, è grosso modo, dai. Abbiamo tirato la giornatina, dai Giuseppe, cosa vuoi fare? Riprendi. Ehi, cappa, dai, perché tutti per la giornata, mannaggia, chi più o chi meno, però guarda, io massimo rispetto e mi inchino veramente a voi che dovete lavorare in cantiere. Io sai quante volte dico anche ai miei colleghi che stanno giù in stabilimento, dico, ma voi pensate, loro stanno sempre a lamentarsi, no, ma qui, ma là, pensate anche a chi sta in cantiere, con tutte le correnti che ci stanno, cioè, un attimino di coso, mi hai capito, fai che, cioè, inchinati anche un attimino a chi più di te, perché da noi, nonostante tutto, se c'è freddo, in stabilimento, chiudono i cancelli e lavorano dentro, mi hai capito? Attenzione, Falchetto. Natalino? Io sono qui. Falchetto l'abbiamo perso. Sì, sono andato a buffarsi un cicchetto. E cappa di positivo, dai. Andrà bene, col prezzo magari ci sta anche quello. Un cicchetto al giorno toglie il medico di torno. Quello è poco ma è sicuro. Oh signore, ecco quasi, la nostra vita è una tribolia, dalla mattina, da quando inizia a lavorare fino alla sera, è una tribolia continua. Ma io dico questo, ma quando ci ha fatto il buon signore, poteva farci tutti quanti uguali, invece chi è più ricco, chi è più povero, chi è più malato, chi è meno malato, chi ha quello, chi ha quella, tutti quanti erano amicati, precisi, e tutti quanti eravamo col sorriso, dalla bocca fino alle orecchie, tutti quanti contenti. Scusate, ero ripreso, Giuseppe, scusami se ho interrotto, ma mi stavo scusando il telefono, Tranquillo Falchetto, no problem, assolutamente tutto sotto controllo, non ci sta problema, vai tranquillo. Scappa. Allora, la colpa è di Eva, che si è mangiato la mela, c'è torna la colpa. Manco male, cazzo, io di chita non li mangio, io non li mangio, a voi mangio la banana. Parlo sicuro. Ma che su che si rulla, vedi un pochino come rulla la mia postazione stasera senza vitamine. Aspetta, una bomboletta, sì Giuseppe, una bomba, e io come ti rullo lì? Qui sta arrivando a bomboletta piena, buon paghetto, siamo grosso modo dall'altra parte della città, però qui c'è Radio Super 5, che 9, mi dai 9:20 come Santiago. È positivo, anche tu se arrivi una bomboletta che abbatte non ce l'ho. Ok, riprendi l'atta? K, riprendo, iaia. Stavo dicendo a Giuseppe, Catta, se vede questo apparecchio se ne innamora, che... Natalia, che dice? È un baracchino da pace questo, è il ricordo di un carissimo amico che è morto, capito? Questo qui. E me lo sto usando qua, vicino al letto, perché funziona a 220, non c'è bisogno né di alimentatore né di nulla. Ed è un barragione, però sa quanto è grande. Cappa, ma è... non è valvolare Natalia? No, no. È trasitorizzato, non è valvolato. È stazione base, però. K, il mio sogno, quello è il mio sogno, quando riesco a togliere da qui il birichino che uso in barra pesante e riesco a sistemarmi anch'io la mia stazione base a 220, tranquillo, senza bisogno di alimentatore, però attenzione, solo ed esclusivamente transistorizzato, perché valvolare e cosa non ne voglio. Me ne avevano promesso uno e poi non si è più fatto sentire, ma roba degli anni 70 se non mi ricordo male, e niente, solo ed esclusivamente un bel valvolare, in maniera che possa aggiustarmi come voglio io qui. No, stavi dicendo transistorizzato, non valvolare. Sì, K Natali, per me è qui un transistorizzato, perché il valvolare che mi avevano promesso, sarà qualche mese fa, ancora non si è visto nessuno, perché mi hanno detto che è ancora funzionante quel valvolare. Ma bisogna saperli usare quelli lì, sennò... se non li sai usare ridurami da Bacca a San Stefano li valvo. Non bisogna metterne di quelle cose, se no non... E poi baracchino va a volare, non hanno canali, non hanno niente, capito? Non ne vale la pena, diciamo così, capito? Io già non so cosa ti servirebbe a te, però diciamo che è una cosa totalmente diversa da quella che sto usando adesso. K, Natali, io guarda, non ti dico adesso, ma sicuramente se ci riesco a fine anno, tanto pian pianino mi sto mettendo qualcosina da parte, sto sempre facendo finta di fumare, no? E mi sto mettendo qualcosina da parte. Vedo un pochino a fine anno di eliminare questa porcheria che ho qui sulla scrivania, no? E niente, mettere un bel apparato a 220 senza bisogno di nessun alimentatore, con tutti i canali che mi occorrono, e senza stare lì a fare mille giri, mille acrobazie quando devo attaccare o staccare qualche apparato. Se riesco mi voglio prendere qualcosa di serio. Vabbè, qualcosa di serio, non sono questi apparecchi che sono vecchi, di vecchia concezione, diciamo così. Mica Falchetto ne ha visto uno che ne avevo io in macchina, quello sì che va bene per stazione fissa, li viro qualche... No, ma niente serio, quello non c'è il baracchino, eh. Attenzione Domenico, qui arrivi forte chiasso, cambio, qui è tornato. Vedrai che anche Tornado riesce a sistemarsi per bene, mannaggia le vescetti. Siete buono qua, Cappa. Domenico, salutoni Domenico, se mi vai copiando Falchetto qua, Mi avete chiamato, sono entrato. Chiama, sentiamo forte e chiaro, Falchetto, sempre. Ciao. via Massimiliano, vai. Mi sono sedato un attimo perché si è fermato Pian Paolo qua e stavo parlando. Cattarroglio, ciao Gianni da Più Ru. Buonasera, ben ascoltato, buonasera a tutta la ruota, senti Bulldog qua, dove è incontrato? Quando voglio parlare con questo, parlo con questo, mi c'ho anche il bip qua. È bello, quello mi piace quel bipino, eppure ci devo riuscire a prenderlo anch'io. Ma guarda, se lo vedi a questa specchia, aspetta che tolgo il bipello, ecco qua. È ingombrante, molto grosso, capito? Ce l'ha già nel doppio rumo uguale a questo. Questo qui io ce l'ho perché lo ricordo di un carissimo amico che è deceduto. Nel senso che è il suocero di mia nipote praticamente. E lui è deceduto e questo ce l'ho io, capito? Dai, comunque va alla grande. Va veramente alla grande. E vediamo di fare una chiamata generale qui sulle 21, dai, e se qualcuno vuole entrare. Avanti sulle canale 21, cambio. Ecco, fermo il circolo. E K, buongiorno, K. E doppio annuncio, si sente? Che stanno parlando in verticale, capito? Non entrano per quello, perché hanno qualcosa da dirsi in verticale. Avanti un amico paghetto. È positivo, dai, e io rilancio tutto il mic a Domenico se ci copia ancora. Attento Domenico! Chiama amico paghetto, dai, sto prendendo la bocca. Ci sentiamo meglio la prossima. A doppio punto! E gappa de voce. Riprendi il buon Giuseppe. E K Panchetto, sento l'amico Domenico che c'è il movimento, cambio. È positivo, Domenico sta prendendo la seconda buca, dai. Chiara, Domenico che sta di tutti il travaglio, mamma mia. Una notte sono andato a Olbia con lui, siamo andati a portare il rimorchio vuoto e a salirne quello pieno. Ma guarda che nonostante tutto sì, e puoi riposare di giorno, però di notte hai meno rompimenti di scatole. Infatti meno rompimento di scatole c'è, già è vero, anche perché portando un mezzo del genere non è buccia di gioca, che è un articolato così, caspita. C'è il Mercedes Domenico, anche lui, solo che questo qui è per gli handicappati, dice lui, perché non ha il cambio, praticamente, cioè non ha frizione, nulla, automatico. Cappa Natalino, allora gli devo far provare il mio. Domenico, vedi se sei uscito dalla buca, ti faccio provare il mio. Sempre Mercedes, Panchetto, vedi un pochino se riesci a recuperarmi il buon Domenicus. Ecco, Panocci, ha detto Domenico, se ne vai copiando. Ciao, Panchetto, ricopia il centro, dai, uscirà la bocca. Positivo, diceva l'amico Giuseppe che ti fa provare il suo di barra pesante, Cappa di Roger, Cappa Roger, che prende Giuseppe? Cappa, io non so se l'amico Domenico riesce ancora a copiarmi, io qui è zero, zero assoluto, Domenico, se riesce a copiarmi fai il ponte con il buon Panchetto, cambio. Detto Domenico, se sgucci Giuseppe che ti fa chiamata, eh? Giuseppe, zona negativa, la cimiteria è difficile tirarlo fuori, eh? Cappa di positivo, la conosco, guarda, palmo a palmo quella strada lì, e guarda, veramente una cosa che non si crede, perché mi approfitto per 2 minuti di bianco, vengo subito. Positivo, ho sentito un doppio bip, avanti il doppio bip. Negativo, Domenico! Ehi, Panchetto, Panchetto! Sono cimiteria, dai, io stavo passando dal positivo. È positivo, dai, ho capito che eri dalla cimiteria, dai. Ok, io ti ti auguro un buon trabacco, un buon tutto, ti accompagniamo fino a dove ci senti, eh? Tornata, ha fatto un attimo di bianco, Domenico, riprendi. Bene, doppio ruolo, sta parlando in verticale. C'è Natalino, avanti Natalino. Io te lo sento, Domenico, adesso quando mi alzo l'antenna lo sentirò da tutte le parti. Vedrai, quando mi alzo l'antenna le senti rimandrà anche Domenico, che c'è un'antenna bassa, io poco. grazie. Un complimento. Andrà bene, io ti ascolto lo stesso, dai. Ti ascolto piccolino, ma ti ascolto. Avanti, Giuseppe. Io, Domenico, l'ho quasi perso, non può essere di sincero. Non so se lui mi copia. Avanti, Domenico. Domenico, l'ha ascoltata Giuseppe? Cerca di vedi di farmi da ponte tu Gianni, io non lo sento, non so manco in che coordinate sia in questo momento, cambio. Appa, dovrebbe essere la salita di San Caggia, confermi dove? Sicuramente c'è troppo ingresso, ecco perché c'è saturo. Infatti, bisogna vedere cosa è e cosa non è. E se no, manco te ne accorgi. Però sì, ha un tiro di schioppo da lui, ecco perché la sua ascoltarvi, perché non è tanto saturo, capito? È compreso, ma non saturo. Ha ragione Gianni, quando glielo dicevo anche io a Giuseppe, lo fa. Ma perché tu sei un tiro di schioppo, l'ascolti così, Luca, non c'è problema. Infatti glielo ho detto, in città non c'è bisogno di usare niente perché esci benissimo, normale. Esci forte e chiasso. Avanti Giuseppe. K di Roger Natalino, vai, va bene così, io ho chiuso la boccetta dello sciroppo e se voi mi dite che così va forte e chiasso andiamo bene, dai, riprendi tu Luca, avanti. No, vabbè, ultimo, come sempre, sicuramente hai qualcosa troppo ingresso, italiano per una situazione, capito? Non mi interessa quello che stiamo usando, non lo voglio sapere neanche. Però, ripeto, non mi entra niente in tasca. Dici saturo, chi è saturo? Con molto compresso. Incomprensibile. È troppo, troppo. Cerca di vedere un po' la... Tutto un baradam lì, non so. Vedi un po'. Mi lascio il microfono a Gianni, vedo fare un controllino sul computer. Poi cercherò una cosettina, dai, sui qui. Ehi, dai. No, pensavo che ti dovessi controllare il computer tu. K, avanti Natalino, per felicità. K, tu confermi quello che stavo dicendo io già? Sì, io dico la verità, Saturno solitamente è granchiante, ma io non lo sento così, lo sento la radio un po' compressa, ma è una potenza anche che magari lo fa comprimere, capito? Anche se non è così potente da farlo comprimere così, magari dandogli appena appena meno di watt si riesce a chiarificare la radio bene. Oppure a potenziare l'ingresso di quell'affarino e vedere che non saturi, capito? Come ho fatto io quello che avevo io, te lo ricordi già. Magari c'è troppo ingresso e satura per quello. Controllo radio per tornato in questo momento con qualche vitamina in più. Vedete un pochino se è ancora satura la radio proprio. Adesso di più. E adesso? Adesso no. Perché ho aumentato i piedi sul microfono. Gabba, come tu abbassi si sente ancora più la saturazione, allora sì che do ragione a Luca. Ti hai permesso? Avanti. Buonasera a tutti. Buonasera Mario, ben sentito, avanti. Buonasera, come sta va? Salva con me, mon amico. Mi fa 50. Ciao Mario. Come sta va, Messi? Sta va bene? Sì, Messi, sta va bene. Sei tutto il giorno di giorno. Ok. Va bene, dai. Ben entrato, Mario, dai. Riprendi tu e vai per chi vuoi. Qua in ruota ci sono Falchetto, Giuseppe, Doppio Ru e io. Dai, vai per chi vuoi, Mario. Sì, Gappa, non ci sono problemi. E c'era anche l'amico andando a Castillo, che non lo sentiva più bene lì nelle gallerie, ma purtroppo mi hanno chiamato e mi sono dovuto accettare dove stavo ascoltando con le orecchie di porco e niente là, così gli facciamo compagnia, intanto noi ci sentono anche laggiù, anche la Borba ci sentono, così che non ci sono problemi, così gli facciamo compagnia. Gappa, riprendi Gianni, doppio rompo. Allora, vediamo se Domenico ci sente ancora. Domenico non risponde, prova tu Mario a chiamarla, vedi, ti ascolto. Se non si è ascoltato di chiamare, prenda, mi sono spostata. Avanti, Natalita. Sì, grappa. Infatti, deve essere proprio così. Magari ha trovato qualche camionaro o suo collega e si sono spostati di canale, dai. Non c'è problema. Anda bene, Mela, dai. Riprendi, Mario. Sì, scappagliato, dai. Io la giro subito a casa Giuseppe. Avanti, Giuseppe. Sì, grazie, Mario. Ne approfitto subito per salutarti e naturalmente con cordialità una stretta di mano e niente, benvenuto qui sul 21. Abbiamo perso, come abbiamo potuto vedere, anche il buon Domenico, non si sente più, mannaggia, e la città dell'amore è andata a farsi friggere. Dico bene, amico Pacchetto? Positiva, ne approfitto anch'io a salutare il buon Mario, ben entrato e ben ascoltato, Mario. Va bene, ciao Pacchetto, anche te. Niente, no, io faccio saluto di circolare a tutti, perché anche se ne stavo ascoltando, per non fare lì tutti i nomi, ho detto buonasera a tutti, buonanotte, io se vivete. Non è che sono preso male educato, perché dico si è permesso, però non faccio mai presto. Non c'è problema, Mario, non c'è problema. Ok, riprendi Giuseppe. Cappa di positivo, dai, qualche. Il break delle volte ci sta e non ci sta quando si è così in ruota, dai, dipende anche da quale discorso si sta facendo, perché anch'io questa sera sono, anzi no, bugia, stamattina sono entrato con un così buongiorno a tutti voi e c'era, adesso non mi ricordo se era Guffo e Gian Maria, adesso non mi ricordo chi. Comunque l'importante è entrare sempre in ruota, salutarsi cordialmente e farsi una bella chiacchierata, dai, non ci sta problema, Mario. Avanti, doppio rum. Cava, interessante essere educati. Poi anche io a volte entro, buonasera a tutti, però è come se facessi il break. E cappa di positivo, Gianni, e l'hai proprio azzeccata in pieno adesso, cioè è giustissimo quello che hai detto. Va bene anche una buona sera, proprio detta col cuore, e vale forse più anche di 10 break. Ma un attimo di bianco per me, dai, riprendo subito. Ehi, Giorgio, la giamma con Volorino, Ti prego, voi andate un attimo di bianco, alla in cucina, e ti metti le buone danze, la matrice nell'aria. Ah, perché? Guarda gli alzacci, bevono acqua, non vino. Mario, l'ha compreso al volo, Mario, Ma che su che andiamo? Un attimo di bianco, vai. Mario mi ha compreso al volo, vai. Ciao, tagliata. Oh, Giuseppe. E tu? Hai piantato tutto sulla barra? Bevo l'acqua. Sì, Mario. Piantato tutto stamattina sulla barra, pagato il conto corrente e tutto a posto. Ho beccato anche alcuni amici stamattina, perché ero qui avevo Sassari e tutto il circondario, no? E stavo consegnando e facendo. E niente, e poi lì c'è il buon testimone, il buon Natalino, che a che ora erano Natalini? 11:30, mezzogiorno meno un quarto, si sono messi a parlare di arti culinarie. Avanti, Natalino. È vero, c'era Graziano e Gian Maria, capito? E noi gli dicevamo che eravamo a dieta, lui ce lo faceva apposta, il discorso era quello. Gatta, è come quello che non può mangiare, tutti quanti parlano di mangiare. E va bene così, dai, bisogna sempre stuzzicare e stuzzicare i nostri amici, in un modo o nell'altro. però cavolo anche loro, io che ero in barra pesante, ma aveva una fame cazzo che arrugato mi sembrava la bitorra, chi tu che era tre parenti lucoso avevano mamento, ah forse era minestra e patate non so cosa, poi appestato tutto il lardo, dici, fatto bene, fatto rosolare bene con l'aglio e prezzemolo, mamma mia cara casa, sono a pensiero nel scendere ubriaco da Rovarachino, Mario. E quello è bello, sul giacchiale chi non può mangiare, non per un motivo, o per l'altro, tu hai di quei denti se puoi decidere, se sai che non finì. E bello è quello lì. Allora, grazie a noi la Busecchiende, a me cosa è così raccontimento, mi riesce l'intisa, e se mamma ti ha niente integrale da servizia, compreso, chi c'è raccontimento di me? E il campo è l'acqua, e qui me lo posso immaginare, sicuramente loro lo fanno all'antica col pezzo del lardo, magari il pezzo dell'orecchietto in mezzo, il pezzettino del mosetto. Allora, Graziano le ravendi, compreso là, e domani a poca, a chissà io e chi siamo a dieta, allora lo fa apposta a casa a punzecchiare, maledetto. Signore, bene, cari, domani è sabato, me, e cosa volete fare? Visto che siete tutti gatti con l'anice attaccata a rubare al chino, si va a fare questa mangiata o non si va? Su che andiamo? Non risponde nessuno? Su che andiamo? Ma posso venire? Carino! Io te lo metto che questa settimana c'ho un impegno. L'impegno che avevi con Giuseppe. Bobo, Mario, e non che la cosa è fatta male mi. Io quello che comprendo. Allora, Giuseppe si era dimenticato che aveva un appuntamento con Gianni, contro Pierlu e con Vera. Si era dimenticato. Io con Falchetto e con Giuseppe stavamo organizzando di andare magari qualche trattoria così alla Sassarese a farci una mangiatina e così. E niente, per non dire andiamo a mangiare la solita pizza. E niente. Impegno, era la stessa cosa, e il resto dei adesso, vi ho visto un po' tentennanti, chi voleva andare, chi non voleva andare, anche dove dovevamo andare, quindi ho detto io mi prendo l'impegno, così mi hanno invitato e sono andato e ci vado. Avanti Giuseppe. Eh sì, cappa Gianni, io anch'io ero così, pendevo su un'elata, io impegni, ti dico la verità, non ne ho preso, anche perché qui se devo uscire io la macchina ce l'ho, prendo la macchina, mi siedo mia moglie e le bambine, Paolo, per quello non è problema, non ce n'è, chi sia o non sia in compagnia, quello non è quello il problema. Però io rimango sempre del parere, se si vuole organizzare quelli che siamo, io sono sempre pronto, problema non è. Cavaliere. D'accordo. Allora, Giuseppe, per adesso siamo in tre. Io, tu e Falchetto, poi se ce n'è qualche un altro che vuol venire, è benvenuto, Allora, il problema io non ne ho. Se mettiamoci d'accordo poi quando rientra Falchetto, ci mettiamo d'accordo, domani sera prendiamo le scarpe e andiamo, non ci sta problema. Se sono troppi, le carichiamo tutti sul cassone del Daily. E se più sul cassone del Daily, non ci stanno, li carichiamo sul cassone del Mercedes. Ma quello è troppo grande, dai, aspetta, e mi dice, mettiamo la valetta, una cosina, lo so giorno. Cappa di positivo, dai, l'importante è che ci si diverta, si faccia una chiacchierata, non è quello il problema, Mario, ci mancherebbe altro, dai, e forse solo quello. Falquetto, ci sei o non ci sei? Ci sono, ben entrato di nuovo. Mannaggia i pescetti, Falchetto, e confermi tu per domani? Positivo, non c'è problema, positivo, io lo confermo. Dai, allora troviamo qualcosina qui senza allontanarci molto, anche qui a Sassari va benissimo, abbiamo non abbiamo quell'imbarazzo della scelta, dico bene Mario? Cappa di positivo, tanto io riconosco tutti, non è che... Cappa, andemmo, arrascemmo e ce ne vorremmo. Cappa, cappa. Ma che, se sei dei nostri dai due bippe. Su che andiamo? Non c'è problema, dai, si organizza e si va. Non c'è problema, Giuseppe. Certo, dai, è giusto un rullamento, diciamo, in amicizia, che poi chi vuol venire che sia il benvenuto, dai, come sempre. È positivo, riprendi Mario. Guarda che la tavola è sempre aperta a tutti, come il baracchino, è sempre aperta a tutti. Baracchino, Mario, tu adesso stai dicendo una parola grande, e tu tu sei un birichino, non il baracchino, attenzione. Guarda che io sono bravo, mangio il pane cotto. Ma la schincia, non me ne fa passare una, perché... Positivo, male così, ciao, va bene, dai. Niente, chi si vuole aggregare? La stazione è aperta per tutti. Cappa di Roger, dai, avanti doppio room. Non mi avete detto come sto scendo con questa radio, ho cambiato radio, non vuole essere manco a curta. Perché a noi la radio non ci interessa nulla, è interessante che sia sempre buona la modulazione e che ci capiamo tra di noi, tu hai detto, è relativo, uno vale l'altro. Avrei detto, 110%. Vabbè, io lo sto chiedendo a loro, se mi potete dare un controllo, grazie. Volevo sapere se stavo facendo bene, perché era tanto che non ho attaccato. 920 e Radio 5, dalla mia postazione. Cava. Va bene. Allora vuol dire che sta ancora là. Avanti, Falche. Positivo, dai. 910, Radio 5. Charlie. Andare. D'accordo. Avanti Giuseppe. Quindi domani grande mangiata. Già, io aspettavo una risposta per mercoledì, è arrivato giovedì, poi è arrivato venerdì che oggi e niente, io mi sono tenuto sul leggero per non sbagliare, perché sai, molte volte ti può arrivare anche il coso all'ultimo minuto, però sì, va bene così, dai, non è... una grande mangiata, oddio, si va, si fa una toccata e si rientra, dai, se poi magari c'è una cordolina con piselli o queste cosucce così fatte alla sassarese, fave con lardo e queste storie qui, ma oddio, un piccolo sacrificio lo facciamo, dai. Già sono cose che piacciono anche a me così. Quindi devo mangiare avanti io le favole, la favata però, non la ribisare, la favata, era buonissima. Era da un bel che non le mangiavo, ma cioè, mi piace ancora. Poi soprattutto la favata quando è calda, ci metti quelle panne tutto intorno, fatto in quella maniera lì, e è la morte sua già. Però non ho esagerato, perché poi ti sta sullo stomaco, ne ho mangiato un pochino, un pezzettino di carne, ecco, non ho esagerato più di tanto. Perché vuole così, Gianni? Non è che ti devi abbuffare, perché mangiamo tutti i giorni, è giusto per mangiare, cioè io ho proposto così una mangiata alla sassarese, perché... la cucina sassarese è un'elicchitta e se non ti abbuffi che mangi per dire un poco di lumache grosse e verde, che mangi un poco di trippa, che mangi una cosa con piselli, che mangi testine d'agnello, che qualunque cosa mangi alla sassarese, se non ti ingurgi mangi bene e sei leggero, perché anche mangiando il testino d'agnello non è che siano pesanti, sono una roba leggera, qui nella testa c'è poca roba, capite? Cos'è che non è che ti puoi abbuffare, poi magari mangi un pezzettino di cordola, un pezzettino di tartaleo e così via. Infatti si va per stare in compagnia, non per buttarsi, si va per stare in compagnia e fare quattro chiacchiere insieme in amicizia. Ti conferma. E bene, infatti. Siamo dimenticando il Natalino però, Quanti Natalini? Sì, non c'è problema, a me piace anche ascoltare, più che parlare. E no, ma, cioè... ci stiamo rilanciando tra di noi e tu hai in panchina, anche tu puoi dire la tua, anche penso che la cosina di Salisa ti è pure di piazza. Beh, penso proprio di sì, io sono sassarese in chiave proprio. A noi, sassarese si può fare, rilanciamo, se la facciamo, non è che ci sono mandato la carta di città, nessuno voglio. A chi c'è ne pure penso che sia la solita chiave, da quello che so che se la chiave è fasciuta, se è taroccata non è loco. Ma così già. No, io non so se sarete in chiave. Mio padre era milanese, quindi. Mia madre era sassarese, proprio sassarese, però mio padre era milanese. Gappa gappa, comunque non c'è nessun problema, per me non fa differenza. si fermo già questa chiacchierattina così in amicizia, così conosciamo a chiamare il verticale e tutto qua, dai, già va bene così, giusto Giuseppe, riprendi. E K di positivo, dai, la fretta di rispondere, mi stavo affogando con un cracker, mannaggia. Sì, va bene, va bene. Però Mario, testine l'agnello poco mi sentivi, già a me non mi piace, però non si mangia nulla. Si è gioca, si è una corduretta così, in amicizia, va anche bene. Per me va benissimo, no problem. Trippa, ne boa regapuru de zekiri, chi andava? Bene, Daniele. Insomma, anche io vivo passione, ci vuole passione. Tu fai che cosa dici? Ah, per me una curdola va più che bene, capito? Ma se il campagnone cosa mangi? Le luci, le cose medio, le cose mandipoli. Se la mangia non è che mi capita il bocchetto, non attesi, mi dai che c'è a mano. Ma noi siamo qua vedendo di mangiare, e a me cosa abbiamo? Birra! Birra, vino, non mi volete vincere, non è che ti mettete con la bocca mia, no? Come stai andando a mangiare? Beh, non voglio! Ora, guarda, arrecami! E dopo, buonanotte! E cappa! Siamo come ti chiedono, mi arrecchi una pinta di rum! Ma guarda, sbagliato. Quando uno lavora che è stanco, fa piacere, però poi crolli e ti butti. Cappa cappa, anda bene, va, anda bene. E così non ci sono problemi comunque. Comunque, perché devo organizzare una riuscita, vedi che a miei cugini, tanto c'è di vedere i miei cugini, vedi che a miei cugini lo faccio un po' di vita, lo sento fuori. Mario. Sì, dimmi. Ma rimani, avrebbe lasciato un pochino di stecca a qualcuno, Bistecca di che cosa? Di parlare, abbiamo chiuso le trasmissioni di noi due ieri notte, non ho finalmente più. Ieri notte sì, ieri notte, ma però sono discorsi anche che purtroppo non fa parlare in frequenza, anche se no da me magari ne siamo esercisti, non va bene, anche perché io sono uno di quelli che se a uno le devo dire una cosa, gliela dico senza tanti mezzi termini. Poche parole, vendete e me le schiette, niente, però siccome non tutti la pensano come noi, allora bisogna evitare di parlare di queste cose in radio, perché sono sempre scocciature, perché intanto qualcuno c'era che ci stava ascoltando, Tappa di positivo, ma essendo un paese democratico, libertà di parola, libertà di espressione, non abbiamo sparato a nessuno, non abbiamo calpestato a nessuno, solo ed esclusivamente uno scambio di idee. È tappa di positivo, però per noi piccoli mortali questo scambio di idee non è possibile, capito? Perché dicono libertà di stampa, libertà di parola, fino a un certo punto, ma chi da voi è come se ti tu hai fatto un carabinieri, dice perché sta facendo un'ipotesi, è stato un carabinieri, chi è qui ha commesso, e non è Biago di vino, no, è Biago di tutto il resto non mi si può dire. Perché è tipo un mese di momento in lui. E da voi, se non comprendi di nulla, quando sono esami, mi volevo se quando sono tutti, per carità. E loro che dovrebbero dare l'esempio, molte volte si esprimono peggio di noi. Così che è meglio stare sempre un pochettino cammini a chi non si sa mai l'altro come te la può pensare. Anda bene meta, dai. E doppio room, su che andiamo? Scusate la mia curiosità, ma di cosa avete parlato di tanto irritante? Solo ed esclusivamente di questa storia, di questa benedetta guerra che stanno facendo, secondo me, senza nessun motivo, Iraq e tutti i Balcani e tutte quelle storie lì, solo una passata di larghe vedute, visto che siamo in un paese democratico, libertà di parola, libertà di espressione e tutto lì. Poi ognuno la pensa a modo suo, però ho visto cosa ha combinato Berlusconi. Anzi, non so se avete giornato. Ma se quello è andato a casa a mettere una bomba sotto il culo a quelli là, ma avete sentito la barzelletta che ha raccontato su Giuseppe e Maria? No, negativo, questa no. Allora, lui era lì, no? Hai visto che è stato il primo presidente del Consiglio che ha parlato lì, sarebbe come il Parlamento che abbiamo noi in Italia, no? Cava. Ecco, lui si è presentato lì, c'erano tutte le alte cariche lì dello Stato, poi quello che ha fatto più scalpore è che c'erano anche questi frati che frequentano lì, no? E questi organi appartenenti a non so quali cose di religione, e lui è andato a raccontare questo cacchio di barzelletta che Maria dice che era seduta su questo sgabellino, no? In cucina sempre col muso, e Giuseppe gli diceva: ma Maria, posso sapere che cos'è? Come mai hai sempre il muso oggi? E Maria niente. Dopo un po' gli ripete la stessa domanda, no? Ma Maria, posso sapere che cos'hai? È successo qualcosa? E niente. E Maria niente. Beh, alla quarta volta che Giuseppe gli fa la stessa domanda, gli dice: sai, Maria, si può sapere che non puoi tenermi il muso così, sai, eh? Lei si gira un pochino indispettita e diceva: ma io, a dire la verità, avrei voluto una femminuccia. Che ha pagato. Proprio lui che è religioso, che è che si reputa religioso, per farsi vedere magari che non era, capito, che non era come gli altri italiani, che erano altri cristiani, ha raccontato questa cagata. Cappa, ma poi va a raccontarla lì, cazzi, in coso, che sei in terra santa, cioè sei lì. Beh, io della verità me ne sono scese le braccia e quando l'ho sentito, Dio mio caro. Vabbè. Ogni volta che fa vita io sono partitano, se non sbaglio l'aveva fatto anche un'altra volta un danno grosso. Cappa, ha perfettamente ragione, qui sono le volte che fa vita, cazzo, e niente, guarda, meglio che gli mettano un cerotto in bocca, dai, perché guarda, io non sono, guarda, né di destra, né di sinistra, né di centro, io sto bene dove fanno bene, perché già, è inutile che ritorniamo a riprendere il discorso che abbiamo portato avanti ore con Falchetto, con Gianni Capri 2, con Mario, c'era anche Natalino, mi sa che c'eri tu sino a una certa ora. E il discorso è questo, è inutile. Quando si sale e ci si siede su quel cacchio di poltrona, no, ma io non faccio a nessuno, non hai compreso? Che sei di destra, che sei di sinistra, che sei di centro, che sei di le malasorti che se li prendano a tutti quanti, Gianni. Io il discorso che faccio è questo, ma quando mai? Per andare in guerra i soldi si trovano, per risanare l'economia di una regione ci sono sempre mille problemi. Per una guerra che noi abbiamo affrontato in Iraq e ne stiamo uscendo con le ossa spezzate, che abbiamo più speso soldi in funerali per quei poveri ragazzi che sono ritornati coricati dentro una bara, e non riescono a sanare una situazione che abbiamo a Porto Torres, che abbiamo a Cagliari, che abbiamo a Ottana, che abbiamo nelle nostre città, un avvenire ai nostri figli, e quello che io sto contestando, niente di più. Se poi c'è qualcuno che sta ascoltando, come dice Mario qui in radio, ma che ascolti, chissà che non gli si svegliano bene gli ormoni che hanno addormentati questa gente qui, o Gianni, perché con una, diciamo, con una classe politica che abbiamo adesso, ti ripeto, a me non me ne può fregare di meno, a me interessa la vita quotidiana, quello che ti dà il paese, perché noi, grazie a Dio, stiamo producendo, però stiamo producendo per loro, però come sostanza abbiamo poco e niente in tasca e nelle nostre mani. Figurati un domani, come dicevo ieri, per i nostri figli che cosa abbiamo, perché noi bene o male per l'età che abbiamo, anche se ti licenziano, Berlusconi che cosa ha detto l'altro giorno? Sei troppo giovane per andare in pensione e sei troppo vecchio per trovare un posto di lavoro, e qui mi fermo già, riprendi tu. Sì. Quindi l'alternativa quale sarebbe? Ammazzarsi. Se non lo licenziano, sia giovane che vecchio, si dovrebbe ammazzare, secondo lui. La gente che ha soldi parla bene, io di detto non sarò mai, non sono mai stato e mai lo sarò. Perché questi di destra pensano solo alla loro saccuccia. Noi lavoriamo, Giuseppe, e loro mangiano. Gianni, non è proprio così però, è la sinistra in 50 anni promettendo questo, promettendo quello, è il libro che l'ha messo la destra, l'ha messo la sinistra. perché se quando ti hanno dato 10 lire e lì domani ti mangiava 10 lire il caffè, 20 lire il pane, 30 lire la verdura, 50 lire la frutta, ti vedete se ti mettete la resente, voi sai che per esempio mi ha di barugur, io ma sono una diversa e sinistra. Però io lo dico a tutti quanti, io quando ho votato a Berlusconi, l'ho votato perché basta prendere il culo. Cioè, tu sei un cittadino come me, non è perché sei lì che comandi che fai il bello e il cattivo tempo, perché io poi domani decido di non votare più. E nessuno mi può obbligare a votare. Perché io arrivato a quel punto lì dico, tanto tu fai un itinerario, continua a fare un itinerario, ma però non un appoggio mio. Visto che intanto quando aprono bocca dicono sempre il nome del popolo italiano. Il nome del popolo italiano è un corno, il nome è tuo. Perché sei tu che stai facendo le leggi, sei tu che devi disporre i controlli, sei tu cazzo, che devi organizzare. Come fanno tutti gli impresari, sei tu che devi organizzare. E devi mandare i controlli a tutti quanti. No, quello lì è un carissimo mio amico, lascia perdere. Guardate, no, guardate il mio cugino. Cioè, le dieci, oggi non se ne divulgano. Quello noi gli stiamo mandando allo spazio. A chi la gente gli piglia di una destra, la gente gli piglia di una sinistra, trova gente indietro. Tutti quanti questi artigiani rotti in culo, cazzo, che ti pigliano due persone, le assicurano perché sono parenti loro e tutti quanti gli altri sono in nero. Ma è un buffone, diremo. Prima l'artigiano non vede, perché li assicurava tutti gli altri? Quelli che stanno facendo tutto loro e stanno rovinando tutto loro. Non può dire che siamo noi che siamo arruinati. Vieni lì che sono eti. Io non sono detto che io sia di sinistra, io ti ho detto solo una cosa, la classe operaia, ricordati che la destra non la coprirà mai, non lotterà mai per la classe operaia, ma proprio per l'imprenditorismo e basta. Gli imprenditori possono lottare la destra, non gli operai, a mio avviso. Poi io non voto a nessuno, perché mi sono rotto le scatole, ho visto che sono tutti una massa di magnacci e quindi non voto più a nessuno, la mia decisione è questa. Esatto, ma è quello che sto dicendo io. Io mi ricordo quando c'era Meloni, e stiamo parlando di oltre 20 anni fa, c'era sempre il cazzo un comunista spaventato, cazzo qui, lì, là, ma faceva, disfaceva, ti dava dei consigli, ti dava delle cose. Come pigliate voi, ti riuscito a andare a Roma, ma mandate fortuna a tutti gli altri e ha cambiato maniera. Così che io nei partiti non ci credo più, capito? Perché so che tutti quanti stanno lottando per andare lì a mangiare il loro piacimento e lasciarli salvarseli, capito? Ecco perché anche io non vado più a votare, non me ne frega niente, però non ci vado, cioè io vado, però il voto mio non va mai a nessuno perché è sempre bruciata. Ma no, io proprio non ci vado. Che me lo fa fare sprecare il tempo? E tutti i soldi che spendono per queste propagande elettorali, queste cose qua, se tutti diranno nus. Per quello che io dico, noi lavoriamo e loro mangiano. E così, che con le tasse, ditartassero di tasse, e quello che guadagna è ben poco, quello che ti rimane. Avanti Giuseppe. Kappa, perfettamente d'accordo con voi. Anch'io né di sinistra, né di centro e né di destra. Vanano, non so se siete ad altoparlanti o in cuffie, però qualcosa mi scappa in questo momento per chi ci vuole. Vado alla fanculo tutti quanti, non me ne può fregare di meno. A me l'unica cosa che mi rompe di più le scatole è che per ingrassarsi loro, aumentarsi gli stipendi e tutte quelle storie lì, i quattrini li trovano. Per risanare l'economia della nostra regione, è quello che mi dà più rabbia, non si trovano 5 lire, ma c'è cazzo, ma vi rendete conto che le famiglie che ci sono disoccupate qui in Sardegna, ma io dico questo, ma con i soldi che si sono spesi per mandare questi ragazzi o questa gente, chiamatela come cavolo lo volete voi, in Iraq, in Libano, in cosa, adesso mi scappa anche il nome, che oltretutto c'era anche un mio cognato, no? Che è militare proprio di ferma, di carriera o come cacchio si voglia chiamare. Ma io dico questo, quanti finanziari si potevano sanare solo con una missione che è stata fatta lì? Ma quando mai noi non siamo capaci, come dicevo ieri a Mario, a farci gli affari nostri? Ma che si scannino lì giù, pensiamo a risanare la nostra regione, lasciamo stare le religioni che hanno, se quelli sono musulmani, se sono qua, a noi non ce ne frega niente, noi stiamo andando come siamo andati e abbiamo occupato un paese straniero, punto. Poi il paese straniero se la prende con noi, non vede che magari stiamo facendo atti di pace, ci vede come nemici. K, ma non K, no, te ne do 100 di K, perché cazzo hai detto le parole magiche adesso, Gianni. Hai detto le parole magiche, è cosa che io mi sto battendo da quando è iniziata questo cavolo di coso, perché? Perché avrà ragione qualcuno, sicuramente, avrà ragione qualcuno che ha detto, vai, seguiamo l'America, perché l'America non è che è andata in guerra perché gli hanno buttato giù le torri gemelle, l'America è andata in guerra perché dice il petrolio, oh signori miei, a quelli di quella storia lì non gliene passa manco per l'anticamera delle palle delle torri gemelle, ne hanno fatto altre due case che sono 20 piani più alti, non l'avete capito? E in Iraq, Saddam Hussein dovevano buttare giù, in Iraq c'è il petrolio. Ma il petrolio è la loro risorsa. E ci giostrano molto sul prezzo, su tutto quanto, noi praticamente siamo succubi loro, perché il petrolio è solo lì, c'è poco da fare. E loro diventano ricchi dal petrolio, è la loro risorsa quella lì, quindi se fai saltare i putti, l'ammazzi brutto. Avanti Mario. È così, però io non so che cosa dire, se no faccio come ieri e niente, non ho capito, io addirittura, perché io ogni tanto rimugino un po' il tutto, no? E gli ho detto, ma guarda che mente fine quella che ha organizzato questo euro, questa Unione Europea, perché pensateci bene, lui che eravamo un bel sottomesso sotto l'America, anche perché noi abbiamo perso la guerra, però cosa succede? L'America sono tanti stati, infatti si chiamano stati uniti, noi invece abbiamo fatto l'Unione Europea e sono tanti stati riuniti come Italia, Francia, Belgio, Coso, e insomma siamo talmente che ci stiamo espandendo che stiamo sorpassando un po' l'America. E cosa ne so, così domani sotto tramite giri di politica non succede, non vada a traccia e poi gli fa la guerra all'America. insomma la pace diciamo che nessuno più la conosce, trovano sempre un appiglio per formare queste guerre, e invece bisogna sempre predicare pace, secondo me, e cercare sempre di andare d'accordo, di aiutarsi un paese con l'altro e via, però purtroppo non è così, ci sono questi paesi esaltati tipo l'Iran, l'Iraq, cioè tutti quei paesi lì, sono tutti esaltati, fanno guerre per la religione, si ammazzano, bombe qua, bombe là, fanno saltare kamikaze, insomma, sono persone che purtroppo la vedono diversamente da noi. E allora la salita nella bagna Giulia, io la penso come Giuseppe. Ecco, attenzione doppio rum, replica da Giuseppe se posso. Vai. Ma io dico questo, perfettamente ragione alle parole che hai detto tu, ma io dico questo, perché l'America prima gli vende le armi e poi va a fargli la guerra? Perché poi va a rompergli le balle, cioè, io dico questo, ma non è un controsenso, cioè, io ti vendo le armi a te, Gianni doppio rum, ok, io sono Giuseppe, e ti dico, Gianni, quante armi vuoi? Ok, Giuseppe, dammene 100, ti do 100 armi, ok? Perché io dopo devo venire a fare la guerra a te? E ti ho venduto le stesse armi, cioè, mi sei prima ti armo, ti metto in condizione di potermi offendere, e poi vengo a farti la guerra. Io è quello che non riesco a capire, Madonna Santa, è quello, mi avete capito? È inutile che io vada a armare un paese straniero, lo metto in condizioni di potermi offendere, potermi attaccare, potermi invadere, o poter invadere nazioni alleate a me, e poi vengo a farti la guerra. Cioè, ma che senso ha? È come una provocazione, là. Nel senso, io ti armo, così ti do il modo di difenderti, però allo stesso tempo ti faccio la guerra. E mi faccio tale la subone. Gappa, no, ma la cosa che si è risaputa, che Bellale oggi, diciamo così, dicono che è un terrorista, che è qui, che è lì, che è là. Però Bellale prima era un alleato con l'America, facevano finanziamenti, armi, quello, l'altro, cioè era come se fosse un consigliere dell'America, Bellale, davvero, perché qualcuno è venuto a sapere che Bellale è l'uomo più ricco del mondo. E c'ha tutti quanti questi poteri che li ha avuti con l'America. E l'America adesso sembra che siano nemici, dicendo terrorista qui, terrorista là. Però ognuno io so che vuole comandare in casa sua, non in casa degli altri. E giustamente secondo il mio punto di vista, quello là sta difendendo il suo interesse. Chiedo scusa a doppio rum e al buon Falchetto se mi intrometto così prepotentemente, però replico a Mario a quello che gli ho risposto ieri, ma se noi avessimo in questo momento un'invasione straniera, io sono sicuro che al posto di avere il microfono in mano avremmo avuto un fucile tutti quanti in mano. Perché? Perché stai difendendo la patria. E io penso che funzioni così. Qualche, vedi un pochino se ti ricordi il discorso di ieri, se sei ancora sul 21, dai. Qualche torno riprendere. Va a capire. Dai Gianni. Ciucucciu. Mia, pupu. Segnarsi un bel basso, io ne arrivavi 7-8 prima. Io ho detto una cosa. Scusa lì, cioè no. Mi ero avviato la depressione questa cosa. E tu metti quella grande, a futi dinni di chi si mette di te. E vai, brigantino, vai. Ma io ci vorrei? Brigantino. Anche se qui è Stefano. Stefano, avanti. Brigante, sì, vai, vai. Mi ha fatto piacere sentirti, era un secolo. Buonasera a tutti, buonasera. Vabbè, allora, i temi conta, siamo a casa, si sta. Ehi, c'è un'antenna a pezzi, c'è una stazione da 2000. Ehi, no, vai bene, dai, stai arrivando 9:20 qua, sei abbastanza buono come segnale. E allora, Stefano, chi non muore si risente. Ehi, Antonetto. Allora, ciao, Stefano. Come va, Stefano? Bene, sempre ad Olbia. Sono stato la volta a Padova, c'è il capo 2, siamo in Constant. Mi ha detto, se glielo vuoi vendere, non avevo se ne venire. Non ti ho capito, no? C'è il capo 2, siamo in Constant, se glielo vuoi vendere, domani sera uscirò la capo 2 io. Quanto mi dà? E glielo do subito. Bisogna chiedere a lui, e posso associare sul canale, la verità. Ce l'ho qui davanti, tutto pulito. Carlo Principe, la nostra che c'è in varia. E chi è? Chi è? La voglia che c'è capo fregia. Oh Mario. Carlo Principe, come va? Ciao Mario, tutto bene, tutto bene. Sono contento. Guarda che se vedi a pompone in verticale, mi devi spiegare il funzionamento di quell'addetto che mi avevi dato a me, tu lo ricordi? Sì. Ok, Antonio, una mattina ti faccio una bassa, così magari ne parliamo in verticale. D'accordo, noi come ascolti qua adesso? Santiago 6:30, radio 5. E tu sei quasi 7, ecco, 7:08 là. Un po', tu come mi copi a me? L'unica cosa che ho notato è che gli orbi sono un bel freddi, non hanno stappato una bottiglia a mezzanotte, niente, né spumante, nulla, eravamo gli unici noi con lo spumante in mano. Guarda, io ci vivo, per carità, è tutto da scoprire proprio. Mi sembrano un po' freddi come carattere. Non ho visto gente facendosi gli auguri, eravamo solo la Grefanosca, ragazze e ragazze tutti quanti insieme, e ci facevamo gli auguri, e ci guardavano come dire, questo da dove stava venendo qui. Che apparoce. Oh raga, io vado a fare le cariche, magari ci sentiamo più tardi, Cappa, come voi ste? Buona carica, allora se non ci sentiamo, stammi bene. E fatti sentire. D'accordo, saluto tutti gli amici che sono in ruota, Mario, Gianni, Antonello e eventualmente gli altri che ci sono, io faccio correttivo momentaneo a causa carica batterie. Ciao a tutti, corretto per me. Sì, dopo di te, di vita, sì, sì, sì. magari già accendo. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Dopo sono Simone Lampella, ci rientro subito. Ciao, Oscar. Papa Giuseppe. Quanti Gianni? E io da riprese. Tu forse a Stefano non l'avevi mai sentito. Stefano è un vecchio amico, un vecchio amico CB che lavora a Urbia adesso, però quando rientra a casa ogni tanto lo riaccende, dai. C'è tanti anni frequento. Probabilmente tu non l'hai mai sentito. Cappa già, non l'ho. No, non dico la verità. Mai sentito, però è sempre un piacere sentire gente nuova. Per me, attenzione, tra virgolette, per me entrare qui in frequenza, e vedo che anche una persona abbastanza tranquilla, educata e posata, per quanto in questi 5 minuti abbia avuto maniera di fargli una mezza radiografia, è già. No, Stefano, non ho perso in gamba, non c'è problema, è un vero amico, Ok, poi ripeto, per sempre per quella questione là, Gianni, per me potete andare avanti tranquillamente, massimo appoggio e massima disponibilità, come e quando volete. Io dai, non c'è problema. Alessio, se la riprenda, io sono rimasto un po' così perché a Stefano ero da tantissimo tempo che non l'ascoltavo più, non so Mario, ma io non lo sentivo più da moltissimo tempo. Io ci siamo incrociati qualche volta ci siamo trovati da Pompoco, qualche volta ci siamo trovati a Urbia, ma diciamo che le montagne non si incontrano, ma le persone era un po' di tempo che non lo sentivo, un bel po', anche perché mi si è smagnetizzata la scheda, io ho perso un bel di numeri, molti li ho recuperati e molti non sono riusciti a recuperarli, quindi non ho avuto manco l'occasione di fare un colpo di telefono, niente, non, sembra così, però con questo cavolo di scheda che si è smagnetizzata l'ho dovuta cambiare perché non serviva più. Oh Gianni, mi dai un secondo, faccio 2 minuti di bianco, poi ti chiedo un aiutami a dire, attacco l'altro birichino, dai, ti chiedo un attimino qualche conferma di uscita di baracchino dalla tua postazione fissa. Controllo. Bravo, controllo, dai. Ok, arrivo subito. Cavagara, vai pure, vai tranquillo. Falchetto, deve essere che siccome domani non lavora, sono partito di tutti i buccioli. Partito, ci sei. Quanto stai che sono già? Un attimino, va. Papà Mario, scusa che stava chiedendo roba a mio figlio. Ci sono tutti, Giuseppe è andato a cambiare l'apparato, vuole una conferma di radio, deve controllarlo. Falchetto deve essere, ha pensato oggi, venerdì domani non lavoro, quindi mi posso fare tutto il buccione, mi sono dormito. Allora, siamo rimasti noi, Capri 2 non è entrato, solitamente a quest'ora entrava, ma probabilmente ha gente a casa, roba del genere, quindi non è entrato per quello. Siamo rimasti io, mamma dei due. Gatta, sì, vabbè, abbiamo passato un 4 ore e 20 minuti chiacchierando. Che cos'è più burro? Ecco, una via del giorno. siamo contenti che conciliamo il sonno. Io oggi, la verità, ho lavorato, però non ho quella stanchezza che ti fa crollare di colpo, perché sono riuscito a organizzarmi tutto quanto tranquillo, ho fatto tutto quello che dovevo fare, però più rilassato. Invece sono dei giorni proprio che telefonate qua, telefonate là, mi serve questo, mi serve l'altro, via. Diciamo che ti è andata bene, perché se no di solito, per come sei messo tu, che dovete gestire anche gli altri negozi, e venerdì è massacrante, perché devi portare le provviste anche negli altri negozi, perché quello che ho capito è il deposito ce l'hai lì dove sei tu. E diciamo che lì è un polmone per fornire negozi che magari le manca qualcosa, che li portano direttamente da Muros, capito? Se per dire hanno finito l'acqua in offerta, mi chiamano, Gianni, mi serve una pedana d'acqua, io prendo la carico e gliela porto, capito? Io ho capito, infatti, adesso ci è trovato una giornata calma, magari tu sei andato bene, perché se no di solito domani è sabato e ci vuole questo, ci vuole quello, e c'è sempre la giamma. Sì, diciamo che stamattina ho trottato un bel, e stasera che sono andato un po' meglio. Mi ho fatto un viaggetto a Plazzamona, poi sono ritornato, ho portato un paio di cose, qualche cosettina nei negozi, ma stamattina ho cammellato a vivo. Ciao Vela, ben entrato. No, non è qua. Non è qua. Attenzione sul 21, cambio. Scappa, aspetta un attimino, Giuseppe, scusa un attimino, ho registrato. Io, Pierpaolo, qua sì. No, non c'è qua. Avanti, Giuseppe. Ma è strano, Vela anche stamattina. Verso l'ora di pranzo Natalino mi diceva, ma io lo sento, e io in barra non lo sentivo, ma io lo sento, e io non lo sentivo, ma non è che sta andando appena appena fuori frequenza, perché io sono da stamattina senza sentire Vela 1. Tu come puoi scendere invece? No, io. Aspetta, prova lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il segnale è sempre basso, la radio è un po' migliorata. Non so, tu mi arrivi più basso, con più positivi, boh. Io mi costavo un radio qua. Ti sei fatto la cosa? Io ti arrivo più basso. Sì, io non so perché arrivi più basso. Mario è stabile, io Giuseppe è più basso anche lui. Però non ti domando, io sono abituato a lavorare ma è sempre un letto, quindi. No, io adesso ho le 6-9 lì, ho cambiato apparecchio, Allora basta, non c'è problema, ho già spaventato 20 minuti ma se erano numeri, oppure l'antenna, allora c'è va bene, là, tutti i tipi. Calma, adesso ho le 6-9, l'ho messo un po' a scaldare, che sono da un po' di mesi che non lo usavo. Oh Gianni, io ti devo chiedere un controllo, con quell'apparecchio lì me lo puoi fare? Te lo posso dare, sì. Kappa, ti ricordi quando sono entrato a modulare qui in frequenza? In grosso modo il mio segnale com'era? 9-10, da... Kappa, io adesso sono proprio liscio. Vedi un pochino cosa mi vuoi dire. Sei quasi 9-20, da... E radio? La radio 5, perfetto. Pure sto scendo con quello che avevo, che uso nella barra pesante, Gianni. Vabbè, l'apparecchio uno dall'altro cambiano anche, c'è quello che magari allo smitter è più generoso. Perché io l'altro giorno vi ho chiesto di farmi un controllo radio e di segnale di quando uscivo, proprio senza avere nessun altro apparato. Io avevo questo e basta. Ti ricordi quando uscivo con l'antennino della radio, Gianni? Gava, sì che me lo ricordo. Però non mi ricordo i segnali, adesso mi stai facendo una domanda da 13 milioni, anche perché non sono di quelli che stanno con gli occhi sullo smitter, capito? Io parlo tranquillo, come sono sdraiato lo smitter non lo vedo bene, quindi non è che stia con gli occhi sopra, a meno che sia seduto, allora posso anche controllarlo. Infatti ho parlato in controllo, mi sono dovuto alzare. E tratta di positivo, vai. Vedi un pochino così se con l'altro microfono riesco a rifarti meglio. Sei a base di un pelle. E adesso sei appena a cupo, dai. Non sei sciatto, ma cupo, un po' cupo di radio. L'angelo, eppure non riesco a capire. Qual è il difetto di questo microfono qui amplificato? Perché ho quello che mi ha modificato proprio con la capsula del citofono. Ma quello lì ci va bene, aspetta, quello lì ci va benissimo. Giuseppe, ci sentiamo in verticale, te lo do io un consiglio, là. Capo, dai, aspetta che cambio microfono, Gianni. Via. Adesso ho capito. Se come ci avvocato se tu fate due via io a casera. Adesso mi dico con l'archio Gigetto. Dai Carlo, con poco. Cicito Pomponio, come mi copi adesso? Io ti sento più male, ma molto più basso. Grazie, io pensavo che siamo solamente incasinati noi. Adesso facciamo una volta qua, se non riporto la manca qua. Se faccio se scelta come prima, vedrai che faccio fare, invece di smettere a tutti faccio fare. Lascia il mio valore. Facciamo la guerra, facciamo la guerra. Non vuole fare bravo, no, cominciare a rubare il basso. Al basso lo devo rubare il basso, ma sono bene, te lo metti. La fagata. Bella cosa. I italiani non si usano per quello, si usano per farsi sentire furio, roba del genere, non per fare guerra con nessuno. Mi qualcosa, mi avevo, mi avevo, ce lo muovo io. Belle cose. Quelle cose che ho sempre odiato, quelle di rubarsi, questa mania della potenza, della cosa, boh. Si può parlare tranquilli, poi se tu c'hai 600 watt per parlare magari con qualcuno fuori, ben venga. Però io sono del parere che si usa non solo per la potenza, cioè praticamente serve solo per farti arrivare determinati posti, non per calpestare gli altri. Vedi un pochino adesso come mi convinco. C'è una vettina, un dimmer, e piano piano lo regoli e ti diciamo quando la radio è arrivata al punto giusto. E capo, ma fino all'altro giorno andava, avevo migliorato alla grande di radio. Adesso sta strappando, è strano. Ma io sto dicendo, non è che lo stai dicendo così per gusto. Via come si può con la sotto che ciò ben venga si è amplificato e si è dato l'azione, però se uno attacca e c'è stato non esiste nulla la vetasicchia, è come una bella, per come per quello si mica mi dice un 31 la tutta, però la cedeva la chiesa, c'è anche quello, poi esce così, però per uscire così come giù la verità la rispetto. Hai visto il mio cosa gli ho fatto fare? E l'ho messo da parte. Lo so, si tratta da lunga per Giuseppe. Io quando la verità questa, che già lo sa anche male, sai che tu, io quando usavo il macchina di risiedo Conte 2009, usavo sempre il 231, così facevo anche dopo si è portato l'apparecchio e le linee 600 per dire. Allora usavo 600 watt a casa tutti i giorni, lo portavo con 5 e ci avevo 600. Quando venivano a montarsi, diciamo lo strato e pigliavo e attaccavo, le cose da quello, non mi dicevo niente a nessuno, però comunque cioè, meglio uscire chiari per dire avere 600 che uscire sato e avere quello come che sono, capito? E dico così, avere una bella radio con niente attaccato. Questo sì vale sia con 600 sia con 100, non è la griglia. Attenzione, attenzione, se vuoi più. Sì, avevamo un amico. E cosa sembra adesso? Sempre un po' satura. Ma non è che tu hai tolto il microfono amplificato, Giuseppe? E qua? Il microfono qual è? Quell'amplificato della teta G? E qua fa di positivo. È strano, sta saturando di più adesso. Se stasera ti sentivo meno saturo, molto. Ma io ho sempre questo qui della teta G. Casino è che magari non hai finali a MOSFET anche per quello, perché quei finali a MOSFET li puoi dare entrate anche 10 watt e non succede niente, non satura mai. Meglio un pochino adesso già. Prova a fare un passaggio. 1, 2, 3, prova, meglio un pochino già nel doppio room come sta uscendo Giuseppe, cambio. Adesso è chiarissimo. Chiarissima perché ho tolto tutto l'ambaradam e sto usando l'apparato che ho in barra col microfono amplificato. Io quando ci vediamo in verticale te lo faccio il discorsetto. Quello che mi dispiace è che sino all'altro giorno di radio addirittura mi avevate fatto i complimenti con l'apparecchietto lì, addirittura avevo anche, come si dice, avevo anche migliorato di radio, non solo che di segnale, mannaggia. Probabile che io stavo facendo anche questi piccoli apparecchietti qui e diano dei problemi. Ecco perché adesso ho passato il segnale dall'apparato che avevo, dal 48 all'altro, a quello che mi ha aperto Pomponio. Pomponio, ci sei? Dove? E buono, rispondo. Avanti, vai. Antonio, ti ha fatto una berretta. La birricetta, alla salute allora, Antonio. Caro Vito, Giuseppe, lo primo si fa del cicchetto, l'altra birretta. L'altro che rulla, su come rulli. L'altro che ha stivio. Buonasera Vela, buonasera, ben trovato. Guarda che qui si sta la modulazione, non va nessuno qui. Cosa? Che si sta la modulazione, non vai a nessuno. Così è. Papà. Va bene, allora riprendetela e ciao a tutti. Tre volte non mi è passato manco per il cazzo. attimino, io ti ho sentito di splatter, infatti abbiamo provato ad ascoltare di splatter, non stavi uscendo male di radio, io ho pensato che fosse di splatter quando stavi chiamando. Ma cosa splatter, padre, splatter, splatter, cazzo di aro, chiede tutta, e la lascia lì, non fai altro che sopra modulare, che lascia così, lascia, cazzo me vanno a chiamare un asso così tutta la sera, o se mi posso in macchina, e passo a casa di tutti sotto casa sopra modulare, non lo so quello, siete bravi tutti a dire cose agli altri, a dire cose soltanto agli altri, ma non mi guardate voi, ecco cosa, voi già, tutti sei subito beccato quando non ero di te da te, cazzo, sei tu il primo che ti becchi. Voi sono peccato, io te l'ho chiesto solo perché li ha diratto, basta, tutto lì. Vabbè, ho capito. Buonanotte a tutti, ci sentiamo. Giuseppe Querretti, buonanotte a tutti quanti, arrivederci. Ecco, bravi, colardi, bravi, colardi. Cazzo, casino, va bene, ok, non c'è problema. Ok, vediamo. Cosa c'hai, Vela? Vela? Che dico agli altri, no? Entri sulla lavorazione, ma che mi tranquillizza. Poi non ti lascio neanche lo spazio. Fai due pipi che entri, non gliene passa neanche per l'anticamera. Fai bene che non gliene passa neanche l'anticamera. Richiami la roba tutta e non gliene passa neanche per l'anticamera. Cazzo, però sono capace di a te, che entri sempre sulla lavorazione, che sei qui, che sei là. Cazzo, da voi, la grivata, l'osservazione gli si dispiace pure a tutti quanti, gli dispiace a tutti, capito, colardi, non è neanche che dico, ma guarda, forse ho sbagliato, metto la gola fra le gambe, ho sbagliato, no, mica praticamente fanno così, ma non hanno chiuso, mi stanno ascoltando, ma ho già di prendere, io quando ti ho sentito ho detto, mi avvera, però sembrava che gli splatter, però io quando ti ho sentito ho detto, mi avvera, non lo so se tu mi hai ascoltato, però poi si credevano che fuori frequenza o in qualche altro canale, niente, non gli si è stato dato peso. Tutto qua è miseria, non è che non ti volessimo far entrare, anzi ti abbiamo anche cercato che non eri entrato, come stasera non è entrato per niente Kosovo, Capri 2, è vero. Adesso soprattutto a Gianni, visto che ha fatto il colardo e ha spento, dicendo che aspetto non mi sta ascoltando. Se lui stasera non mi risponde invece a quello che sto dicendo, visto che è stato lui il primo a farsi avanti, se lui non mi risponde, tutta la settimana prossima io vado sotto casa sua e gli metto la portante quando stanno parlando gli altri, non li faccio ascoltare nessuno. Ma cosa vuoi che ti dica Vera? Io non lo so, io ho provato anche a chiamarti, infatti ho fatto anche l'esclamazione di tu mi avvera, però sembrava che gli sblatti, infatti Gianni mi ha detto guarda che forse gli sblatti qua in un altro canale, però non proprio di tanto, capito, Vera? Va bene, buonanotte, ciao Mario, ciao. Va bene, comunque non c'è di dare, tanto la frequenza lo sai com'è, no, non uno che non ne vale la pena. E due che non c'è nessuna soddisfazione, non c'è niente. È tutto così. Ok, sopra, via. E beh, succede anche nelle migliori famiglie, tanto con i piedi dentro la culla. No, raga, no, ho bisogno di trovare per la stanchezza, ma è tutto qua. E allora non posso immaginare, ma già ti rifai domani. Vabbè, non è che mi posso aprire, va. Beh, non mi dici che ti ne pesa le quattro, cioè, vabbè, tu non ti ne pesi, tu che scegli e alzare la radio. Cava, cava. E invece me ne passare. E invece lo stia. Ma no, intanto, ripeto, quando sei sveglio, a me a stare nel letto non mi piace perché sai giri in regia. Allora mi piace che tu ruio, senti mi misi. Ah, beh, quello sempre. E tanto male che ti muore l'altro da vicino, un buonino. Ah, no, no, no, assolutamente. Non mi piace uscito. E cos'è tutta portata di mano? Sì, sarebbe una cosa buona, male, ma è inutile. Ui. Oh, beh, alzo, giustamente. Mi vedo il cicchetto e poi si sa. Cagamba. Niente, c'è la pompona, è sparizzo. Vabbè, io sono andato per gli esperimenti, controllando il rende. Infatti, infatti. Sì, pompone sempre in lavorazione, vai. Lui non ce la verrà mettere il pompugno. Ce la verrà mettere il nome di qualche inventore. Pacciani. Sì, veramente Pacciani. E mi cugino di un guasciatello alla prigione della propria pompugna. Ma va. E allora? Stefano? Sì. sì, ho capito. Sì, l'amico di Pompurio. Sì, lo conosco. E ho avuto anche l'opportunità di conoscerlo anche verticale al tempo. Sì. Grazie per il positivo. No, anche io lo conosco in verticale, senza problemi. Grazie. Eia, sì, già va bene. Ah, passo la gamba, gamba rogere. Vai muso. Io la dici, dove è muso, dove è muso? Ma che dove è muso? Duga. Ma che dove è muso? Oh, è muso di sicuro. Ma c'è un sacco. E beh, Luca. Ciao, Mario. Per il tuo cuore, la cosa che compresce, anche per freddo. Capito mi hai? E beh, però sai con computer Luca. Sì, questo è male. Sei malato? Ma questa vuoi la mazzona? Non ti altro vuoi domanda? E scappa gappa. E il numero si guasta a me. Si guasta lì. Se tu gli fai la poesia, non ci guasta. Se tu te la fonte si guasta. Ci intanto non la più. E poi la buccia che la faccio, la voglia. E come? Fai temporali, perché ballacche. Programmi, fai programmi, voglio fare la canzone. E come te usci? Se non lo vuoi, è una mara, capito? E si tratta le, come si chiama, le... Ma... Non è la parola, ma... Vabbè, le arterie, prima di infarto. Gatta. Bocca. Oh, io vai, dimmi. Stavo lavorando, stasera. Chi? Stefano. No, l'ho chiamato, ma aggiungi, sai che dovrebbe entrare. E se vuoi stare lì, c'è ancora, vuoi chiamare a me. Ma sempre con quella di Tarà? E io vai. Adesso ho contento, dai. Te lo dico, ma io vado a martedì, una settimana dopo la vista, ancora non me l'ho chiamato. Vabbè, non lo so io, Di solito, da quando ti chiamano per fare la visita, come gli arrivano i cosi, dopo un paio di giorni chiamano, mi lavorano occupando dopo le loro lunghezze. Vuol dire che io non è, facciamo con letto, c'è un amico fortunato, ecco. Se non l'hai chiamato a te, non l'hai chiamato manco all'assemi. Magari sei stati che ci hanno dati, non lo so, perché l'altro giorno sono passato lì in Viale San Francesco, su, un po' prima della chiesa, e ho visto che stavano facendo quell'angolo del marciapiede nuovo. No, non so cosa è il problema. Il problema è che c'è un muratore vicino a casa mia. Lui l'ho chiamato, quando l'ho visto tutto quanto, ma non l'ho chiamato a lavorare, capito voi? Ma adesso lo martedì ci avviciniamo. Ma sai cos'è anche? Un po' mi butta la... Ma, vabbè, non l'ho compreso. E che me l'ha fatto bloccare quello che stavo facendo. Non lo fa, non lo fa quello. Quindi me l'ho ripreso due, non uno, due. Andrà bene, va. Vabbè, facciamo ripetere a Falchetto. Eia, qua siamo, qua sogno. E tra un pisolino e l'altro. No, negativo, no. Adesso già sto tranquillo, sono un po' riposato, già va bene così, dai. Attenzione sul 21, cambio. Ciao, sono rientrato adesso, Mario, dai, ho avuto modo di mettermi un attimino in un'altra situazione, dai, perché poco fa sono uscito, cioè non ho uscito, ho dovuto spegnere il baracco perché non va bene, io ho bambini piccoli qui a casa e niente, qui si sente tutto e stare con le cuffie a me qui a casa non mi va. Il capo di progettivo, ma lo posso immaginare, ma secondo me è stato tutto di sguido, perché io ci ho accennato, infatti non lo so, poi Gianni mi ha detto che era in un altro bando, che era fuori dalla frequenza, e la verità non ce l'ha dato preso, ho capito, però se l'ha presa male. Vediamo che si risolva tutto là, perché andare così, vedi, uno dice una parola e poi non si entra più in radio, oppure come ha fatto l'altra volta a Roberto, che sembra che ce l'abbia presa male, non è più entrato. Ecco, dai, però prima di iniziare con certi paroloni, io sarei sempre del parere di contare sino a 10. Io non so se qualcuno mi stia ascoltando e parlo per quello che ha parlato in quella maniera lì. Non siamo tutte persone mature qui in coso, in modulazione, attenzione. Io che ho le mic in mano posso essere una persona matura quanto voglio, però le persone che ascoltano qui dietro questo altoparlante non sono mature quanto me, avete capito? Io non ho da nascondere niente. Cuffie le uso e non le uso perché penso di essere qui con le persone serie e con persone di una certa rilevanza e soprattutto con persone educate, e non ammetto nella maniera più assoluta che nelle orecchie di mia figlia, parlo di mia figlia di 3 anni, io possa sentire le porcate che ho sentito poco fa, cazzi che andavano e cazzi che ritornavano. E con questo penso di essere stato abbastanza chiaro. Se voi, buon Giuseppe, come è entrato qui in modulazione nei 27 MHz Pierpaolo, e questo è per te, in punta di piedi sono entrato e in punta di piedi non mi vado. Penso di non dare peso a nessuno. La mia mancanza, certo, non la potete sentire e non me ne può fregare di meno. Però una cosa vi posso dire, che educato sono entrato ed educato me ne vado. Chiudo qui. Niente Pierpaolo, che certe parole prima di far andare i cazzi che vanno e che tornano, bisogna chiedere, siete in cuffia? Io dico solo questo, io avevo la bambina qui che stava giocando, l'ho chiuso per quello, non per mancanza di rispetto tuo, quando ho detto Giuseppe subito in QRT, io ho chiuso subito l'apparato Pierpaolo, mi hai capito? È solo quello, io dico solo questo, ma perché dobbiamo sentire queste parole in radio? Ma quando mai? Dai che siamo persone grandi, siamo persone posate, siamo persone, e un Pierpaolo, con una certa esperienza sulle spalle, ma io quando mai devo tenere cade le dita sulle cose del baracchino per non poter sentire parolacce? E la bambina ci gioca qui, mi Pierpa, abbiate pazienza. No, scusa, io quanta volta che te lo chiedo, mi dici che non c'è. E comunque per quello ti chiedo scusa, c'hai ragione. Allora io intervento così dura è stato, perché oggi ti hanno rotto le scatole tutto il giorno, come che io sia obbligato a sentire i piccoli, mi hanno reseguito più di una volta, tu hai preso la lavorazione, se non lo sento non è colpa mia, no? Dimmi, hai sopravvolato, aspetta. Come faccio qualche volta io? Sono tutto il giorno, io parlo qui. Poi entri, in silenzio, fai bip e niente, fai questo e niente, non ti risponde nessuno. Oh, ascoltate, cioè, non è che avete sempre ragione. me fa parlare, questo è anche vero, però è anche obbligatorio che io parli, sia la cosa, e sia che come ti momento prende il castigo e spegne il nuovo, perché arrivato a un certo punto una cosa mi fa incazzare, perché come era puramente ignorare, perché c'è stato un attimo di bianco, ho chiamato e nessuno mi ha risposto. Per Paolo, nessuno ti ha risposto, abbi pazienza un attimino, cioè ragioniamo da persone un attimino mature. Allora Mario, se si ricorda bene, forse sta facendo confusione Mario, allora quello che ha detto che sicuramente Vela 1 era in un'altra modulazione, sono stato io, perché ti ho beccato in un momento, però per Paolo è incomprensibile, mi hai capito, ma lo sai, infatti ti ho detto un paio di volte, ti ho dato un paio di volte davanti, però è incomprensibile, ma mi hai ragione tu Mario di quello che sto dicendo, sì o no, abbi pazienza anche tu. Ma io l'ho detto appena che l'ho sentita, perché ho sentito la sua voce, come entra lui, ho detto mia Pier Paolo, mia Vela, e poi si entra tutto, e poi in certo caso Gianni del Piero ha detto, oh, lo stanno sentendo gli sblatti, forse in un altro canale, e niente, e io la verità non ci ho dato peso più di tanto, perché tu lo sai che non ci ho dato peso, perché sennò altrimenti avrei detto guarda che è Pier Paolo, perché io l'ho sentito la verità, perché lui è entrato e io ho detto mi è Pier Paolo, che poco prima lo stavamo cercando per il fatto di quel pranzo di domani sera, cioè per quella cena di domani sera, e Gianni De Piero mi aveva risposto ancora non è entrato, non l'abbiamo sentito, come non è entrato Capri 2, tutto lì. E abbiamo continuato a parlare, poi è entrato ad un atto e cioè io non ne vedevo la ragione, perché uno molte volte si dice sempre aspettiamo un secondo per schiacciare la portante, o sia che ci sia qualcuno che voglia entrare, però molte volte o come quello che dice si predica bene ma si resta la male, perché molte volte ci scambiamo subito il mangi e parliamo già che lo svelto, tutto lì. Dai, riprendi tu Pierpa, vai. Sì, va bene, comunque se ricordo io, guardate, è già successo 10 anni fa e adesso sta succedendo stasera. La radio vera stasera spegne tutte le trasmissioni, ciao a tutti, ce la riascoltiamo in qualche altro anno, dai. Vi saluto tutti quanti, è stato un piacere, radio vera non riprenderà mai più dopo questa cosa, aspetto tutto, ciao, ciao a tutti quanti, ciao. Ciao Vela, ma comunque per me stai sbagliandomi, perché la porta qui è sempre aperta, non ce ne sono problemi, perlomeno da parte mia non c'è nessun problema, quando vuoi entrare o quando vuoi venire la porta è sempre aperta, da fare il positivo, poi sei grande e vaccinato, non te volevo dire io queste cose, è vera, perché più o meno c'è l'età mia, anche tu. E queste cose non ci siano giorni in frequenza, lo sai come vanno gli sguidi, molte volte ci possono anche essere, però non bisogna essere così alla prima, lo dico così a sasse, cioè non è successo niente e non è secondo il mio punto di vista, e poi può essere pure che il mio punto di vista sia sbagliato, non è il caso di prendersela così. Non so cosa dirti. Comunque, se domani sera ti vuoi aggregare, vieni, ci sentiamo in radio e ci troviamo andare per una mangiata. Vai, anch'io sono sulla stessa onda di Mario, dai. E io dico questo, ma mannaggia, non avessimo cercato di contattarti, ecco. Il discorso è che si sentiva questa voce in sottofondo. mannaggia Cat, ma se avessi avuto un registratore Cat sarei stato più felice del mondo per sentirmi dire Giuseppe stavi dicendo la verità. Infatti io poi a Mario gli ho detto, ma non è che questo è Pierpaolo che sta andando fuori frequenza, magari non è, può essere anche su un altro canale. Ma oddio, può succedere a tutti, è successo a me ieri, oh Pierpaolo, che tu ti sei messo a ridere per lo strafaggione che ho fatto per il QRT, invece era QRM, e mannaggia cazzo il coso, ma guarda che non muore nessuno per un coso. Innanzitutto mai da parte mia o da parte di nessuno qui in radio, dai, non c'è stato mai il volere di far fuori nessuno. L'unica cosa, guarda, Pierpaolo, sono sicuro che sia l'ascolto, perché guarda, lo sento che ci sei. L'unica cosa che mi ha dato un attimo di fastidio è stato l'entrare così di brutto e dire quelle parole brutte che non hanno, che poi lasciano il tempo che trovano, mi Pierpa. Non lo so, io ho spento ti ripeto, l'apparato, perché tu dici, prima dici che mia figlia non c'è e poi non c'è, io qui di casa mia so come funziona la cosa, mi hai capito? Che ci sia la bambina o ci sia, questi non sono problemi che magari possono interessare a nessuno, però non mi sembra manco giusto che io debba modulare con le cuffie, mi stai capendo? Perché prima di partire così in quarta, e contiamoci la 5 qualche volta, Madonna Santa, che siamo solo di passaggio in questa vita, dai. E comunque una cosa ti posso dire, Pierpa, io come ha detto Mario, mi dispiace, e non ci voglio credere assolutamente che tu chiudi le trasmissioni stasera, perché guarda, tutto puoi fare, ma meno che quello, perché assolutamente non ci voglio credere. Comunque, non lo so, da ultimo entrato, come mi hai sempre detto tu, io ti posso dire una cosa, l'avrò copiata da Mario 2 minuti fa, la porta qui è sempre aperta, e se vuoi entrare, sei ben accetto anche adesso, io anche a braccia aperte, se vuoi entrare, come rilascio il mic, le mie braccia sono sempre aperte per te, e ti sto aspettando, vai Pierpa. Va bene così, dai. Allora, Ok, dai, riprende, vai. E comunque, lui, perlomeno lui, a volte ragioniamo in un modo, a volte ragioniamo nell'altro, perché anche io, nello scherzare, non per cattiveria, anche io molte volte do le frecciatine, le cose, e giustamente se ci sono bambini, uno ci rimane magari un po' male, perché noi lo facciamo perché crediamo di essere tutti quanti adulti, però non sappiamo chi ci possa essere vicino al baracchino, magari ci sono bambini, magari c'è gente che il baracchino non lo può vedere, però lui, perlomeno lui, io scherzosamente molte volte, anche con pompugno, dico parole un pochettino così, come pompugno, con quello, l'altro, saccadici di luci, e cioè io le dico così a titolo di scherzo, perché mi piace scherzare, perché la radio per me è un passatempo dopo il lavoro, capito? Perché a circoli non ci vado, a quello non ci vado, però il radio, diciamo così, un pochettino sbraito, però perché sono tutti quanti amici, qualche battuta, qualche cosa la do. Poi non lo so come lo pigliano le altre persone, tutto qui. Comunque, ma il mezzo non è successo nulla. Se Giuseppe Vela vuole entrare, va Giuseppe. Vela vuole entrare, problemi non ce ne sono. K. Dove vabbò, so cosa succedono. Andava bene, Vela. Che dovremmo dire? Nulla, nulla, non si può dire niente. Tutto qua discorso. Io cosa vuoi dire, Giulio? Perché io sono rimasto sbalordito perché non pensavo mai che ce l'avrebbe presa così. Attenzione, dai, già si sistemano le cose, capito? Cosa vogliamo dire? Io non ho parole, io non so neanche di cosa si stava parlando, a quanto capito, vabbè, me lo sono un po' immaginato, ma di cosa, di qualche disguido, la verità si dica, non so cosa sia successo, ma va bene così, dai, già si mettono a posto le cose, certo che non bisogna prendersela così alla prima, dai, cavolo, non siamo persone adulte, vaccinate, dai, dai, si mettere a posto tutte le cose, dai, e io c'è problema, dai, su con la vita, ragazzi, su con la vita. Ragazza, Pugno, ci sei? E un po' mi è sparito, ha detto un attimo, un secondo, e non le prende più. Oh, Pupulio, deve essere che si sta stampando qualche birretta. Ma non credo a quest'ora. Ho sentito che stava facendo cosa perché si sentiva quando attaccava il microfono dei rumori, però non ho capito né cosa stesse facendo né niente. Però mi ha risposto, mi ha detto un minuto, allora in un minuto pare che non faccia più. non si sa allora. Non saprei che di, non saprei che di. Giuseppe, ci sì. Attento, Giuseppe, ci sì. Ma io sono qua. Ma anche io. Becker. Guardi. Buonasera a tutti, sono rientrato. Buonasera, ben entrato. Cappa. E allora, Giuseppe? E niente, io sono rientrato giusto per un dovere di radio e ho già spiegato a Pierpaolo che mi stava ascoltando che perlomeno io penso di aver detto le cose giuste. Male non ne ho fatto a nessuno. Ho sentito solo parolacce in radio, ho preso la bambina e l'ho portata direttamente in camera e ho spento subito l'apparato, tutto lì. E non voglio scusanti da nessuno, mi sto un attimino rompendo le scatole perché, come ho già detto, in tempi non sospetti, avevo l'apparato solo in barra pesante, qui in casa non ne volevo sentir parlare di questa cosa. Credevo che eravamo tutti quanti una famiglia, tranquilli e pacifici. Cazzo, me l'ha spiegata così, cazzo, ma manco in un botteghino io l'ho sentito una cosa del genere. Cioè, io ve lo dico chiaro e tondo, e non voglio rompimenti guarda, non vi dico di coglioni per non essere maleducato, non voglio rompimenti di scatole di nessuno, perché chi parla con me in radio, chiunque mi stia ascoltando adesso, io voglio il massimo rispetto, perché quando entra la voce nel mio apparato, state entrando dentro casa mia. Avete capito? Chiunque sia in questo momento che stia ascoltando qui in radio, e io qui dentro a casa mia, voglio il massimo rispetto come io lo do per voi. E con questo che sia chiara la cosa, se no come Giuseppe è entrato in punta di piedi, vi sto dicendo, io me ne vado in punta di piedi, senza nessun problema e attenzione. No, Giuseppe, io penso che sia una parentesi questa qua e che sia stato solo un malinteso, perché così, di questo si tratta. Io assicuro che a Pierpaolo l'ho sentito come se fosse di Splatter, se no io sono il primo che lo faccio entrare, non ho mai avuto problemi per farlo entrare. Ha frainteso lui, probabilmente anche perché stasera era incavolato per altre cose e se l'ha presa male, dai. Io oramai per Paolo lo conosco, quindi ho preferito spegnere, anche perché c'è anche il bambino vicino, coricato vicino a me. E ho preferito evitare. Poi magari se ne parla con calma, tranquillamente. Sicuramente lui, vabbè, l'ha già agitato per altre cose, se l'ha presa magari con chi non c'entrava, ma noi non abbiamo fatto niente di coso, perché in effetti anch'io l'ho sentito così come l'ho sentito tu, l'ho sentito come se fosse di Splatter o che fosse magari in un altro canale, però non lo sentivo bene, lo sentivo con una voce cupa e cosa, probabilmente che stava dando problemi da parecchio e poi magari se ne accorgerà se è quello lì e allora dirà vero è. Oppure non so che cosa sia successo, però lo sentivo così. Però io ti posso dire una cosa, Gianni. E qui, perlomeno, io parlo per casa mia, poi voi per casa vostra potete fare tranquillamente quello che volete. Ognuno può prendere e si può. Attenzione, non voglio essere offensivo con nessuno, perché voi mi conoscete molto bene, molto tranquillo, molto pacato, però che non mi si pestino un attimino i piedi a me, perché arrivate a un certo punto, vi posso anche dire, vi potete anche impiccare tutti quanti dentro casa vostra, che a me non è che mi interessi più di tanto. Qui dentro casa mia esistono delle regole ben precise, e innanzitutto c'è una cosa, la correttezza e la pacatezza qui dentro casa mia, sia da parte mia e di mia moglie e soprattutto di mie figlie, mi hai capito? Perché io non voglio, non lo sentono da me e da mia moglie, tutte queste storie qui lo devono sentire per radio. Io ti giuro che non sapevo, io quando ho preso poco fa Veronica in braccio, la stavo portando dentro, ho preso al volo il microfono, ho detto, qui ritirati per Giuseppe e poi ho chiuso, perché guarda, non ci sono parole per poter, credimi, per poter giustificare un ingresso del genere. Ma non lo dico solo a te, lo dico a Mario, lo dico a Falchetto, ma lo dico a tutti quanti. E io vi posso assicurare una cosa, che io non so se domani rientro in radio, questo ve lo posso dire con molta tranquillità e con molta pacatezza, senza offendere nessuno e senza prendere per codardi a nessuno. Cioè, ma stiamo scherzando qui dentro o che cosa vogliamo fare? Cos'è, non so cosa dirmi. Io rispondo per me, non per gli altri. Per cui, io parlo per me. Per me. Mi ritengo sempre di essere stata la persona a modo. Voi, se ho sbagliato, ditemi. Io posso dire la mia? Sì, a dire la tua, anche se non eri nel canale, magari stavi ascoltando. No, assolutamente, non riguarda il vostro discorso. Ce n'era meglio prima, non aggiungo altro. Io invece non ho sentito niente perché il baracchino era acceso, usciva col volume a zero. Lo sai benissimo, già io ho le battutine poi, sta al computer. Io invece non ho sentito niente. Comunque, prima era peggio la frequenza. Poi non so cosa sia successo stasera. Io faceva schifo veramente, ma parlo dai tempi di Poletto, io non c'ho niente contro Poletto, perché capiamo che era una persona non la quale, ecco, perciò le persone che gli rompevano le scatole. Scusami se te lo dico, ma questo qui è un discorso che non c'entra, perché non bisogna guardare prima, bisogna guardare adesso. Adesso noi stiamo cercando di fare una radio come si deve, se ci riusciamo, se no pazienza, vuol dire che si sfascia tutto e buonanotte. No, sto dicendo che prima era peggio, tutto qua. Non c'era da meravigliarsi, Giuseppe, non so, hai tutte le ragioni del mondo, ma qua il baracchino purtroppo è così. Purtroppo, oddio, non è corretto. Bisogna stare attenti, dai, bisogna stare attenti. Ho capito, dai Luca, ricevuto il messaggio tuo. È meglio che spenga tutto qui a casa, perché questo stare attenti mi sta un attimino preoccupando, perché avendo dei bambini a casa, prima di tutto io devo stare attenti a loro. Dai, mi ha fatto piacere, guardate, credetemi. Mi dispiace solo una cosa, che non ci siano adesso delle persone in modulazione che io possa salutare. E come vi ho detto poco fa, sono entrato in punta di piedi e me ne sto andando in punta di piedi. Vi saluto tutti, è stato un piacere stare con voi, però credetemi, veramente lo dico dal profondo del cuore, un piacere stare con voi, però perdere tempo così sinceramente non mi interessa. Perché non ho tempo da perdere così impaggianate in dovermi scusare in cose che non esistono, in dover in qualche maniera stare con le dita puntate sul volume dell'apparato per non sentire certe cose che effettivamente lasciano il tempo che trovano. Io vi dico una cosa, l'educato sono entrato, l'educato me ne sono andando. Ricordatevi soltanto una cosa, tanti, tanti, tanti cari auguri da Giuseppe Tornado. Buona fortuna a tutti quanti, ma chissà che un giorno non ci possiamo sentire. Io vi dico solo una cosa, divertitevi, perché la radio è fatta solo per divertirsi. Arrivederci a tutti. No Giuseppe, allora, ti ho detto di stare adesso nel senso che, non so, hai bambini piccoli. I bambini piccoli purtroppo la frequenza è così. Bisogna stare molto molto attenti. Io ti posso dire questo. Una volta, una persona, stavo parlando, dopo un po' ci ha messo in mezzo a mia madre, e era una puttana. Mia madre ha sentito tutto il discorso, e cosa dovevo fare secondo te? Staccare il collo. L'ho lasciato così come uno scemo, e scemo se ne rimane a vita, questa è una persona grande. Allora un momento, Giuseppe, tanto lo so che ce l'ascoltano ancora, un attimino. Giuseppe, ma mi cambia davvero che ci appena a me per un culo. Ma ieri sera ti stavo a parlare di politica, te lo ricordi quante parole ci hai detto o te le devo ricordare tutte? No, io mi ho detto pure voi, ma anche Giuseppe dice che chiude tutto e non entra più, e chi ha detto che se ne colpi tutto, perché ha detto che casa sua non la vuole sentire quando, specie quando c'è le bambine vicino. Poi io non ne so che cosa dire, perché e secondo me è stato solamente un disguido, perché Yeah. per carità. Tanto c'è stato una cosa in mezzo, la sera uscivamo a lavorare, ci trovavamo qui in radio, ci facevamo due chiacchiere, ci facevamo due risate. Forse tu non ti sei reso conto, però hai offeso tutti, ci ha detto che eravamo tutti codardi, cioè non sono modi di trattare amici questi qua, io non lo ritengo giusto, specialmente perché io ritengo che tu sei una persona diversa dagli altri, che ti ritengo amico, e sentirmi dire certe cose un po' mi fa male. Va bene, allora, siccome ho sbagliato io, appunto, come ho già detto da poco fa, la mia relazione finisce qua e non riprenderò mai più, perché ho sbagliato io ed è giusto che paghi io, come sempre, ok? Va benissimo così, non ci sono problemi, potete modulare tranquillamente, non sentirete più parlare di me, ok Gianni? Forse ci rivedremo uno di questi altri anni, dai, come dal 2005 è successo così che ci siamo rincontrati e ci rincontreremo fra qualche altro anno, dai, ok, anche vale per tutti gli altri, no, non sentirete più parlare di me, ok, quella chiude la trasmissione, ciao Gianni, ti auguro buon tutto e così a tutti quanti gli altri, ciao, ciao a tutti, buonanotte. Aspetta un attimo, ma perché fa il drastico? Sono cose che ci si può discutere, è inutile che tu fai il drastico così e le risolvi in questa maniera le cose. Tante volte tutti possiamo sbagliare, non è che uno perché sbaglia deve essere condannato, ma che cavolo stai dicendo? Io posso aver sbagliato lo stesso, non lo so, però cioè io ho detto ciò che ho sentito, punto. Naturalmente poi tu eri anche un po' nervoso e hai detto cose magari che non volevi anche dire. Tante volte si cova cose, quando sei nervosi cosa si vuole dire? Comunque vedi tu che fa. Io ti ritengo sempre un amico, poi vedi tu quello che vuoi fare. Meglio credere. Ah, vaga, Dio, quello che devo dire l'ho detto, non è che quello che penso, che stavo pensando l'ho detto. Poi dipende da lui, prendersela oppure cercare di ragionarci sopra. Vabbè, quello che stavo dicendo Tino, vabbè, di pesce libico come stanno andando? No, già stanno procreando, non tantissimi, ma qualcuno già è fuoriuscito. Ma niente, no, per me, veramente sono entrato giusto perché ho visto lo Smith muoversi e sono entrato giusto a salutarvi. Sono anche un pochino stanco, quindi domani devo anche lavorare, quindi niente di che. Vabbè, dai Gianni, rilancio il mic a te, aspetto giusto il giro dei saluti e poi vado a nanna. Ciao a tutti, buonanotte, riprendi Gianni. Ciao a tutti, buonanotte. Ci sentiamo magari fra qualche anno. Stammi bene, controllo anche per domani e ti rilascio tutto a Mario, poi fa girare. Ragazza, ciao Tino, tante cose belle e niente, e fatti sentire un po' più spesso. Senta, tu non è che ti vuoi pagare no, per chiacchierare, e allora fatti sentire ogni tanto. Gappa gappa, e quindi buon pugno. Ciao Tino, fatti sentire, io voglio avere 25.000 euro, quindi vieni a casa che ti dico, non c'è problema. Quando vuoi chiama, io siccome il telefono ce l'ho, non ce l'ho perché non li uso, quindi chiama Palacino, non c'è problema. Va bene Antonio, va bene, non c'è problema. Già quando mi trovo qualcosa già ti chiamo. No, va bene, devo fare della politica a casa già, quindi. Però sono un po' stanco da oggi e mi voglio riposare un po', solo domani non rendo, poi domani notte sono anche di Rinata e non vorrei che mi cadesse la patria, come si suol dire. Allora Rito, basta mettica che il fuoco divide più, vedrai che rimane allegrito. No, il mare è quello, che non abbiamo io vino. No. No, io non ho, da piccolino lo travasavo per poterlo vendere lì dove tu sai, però giusto qualche bicchiere di birra così, ma io no. Però siccome me, almeno che lo trovi di quello buono, perché se no non è bello. E a partire da buon divertimento, ho sentito che si già stacco a pensarci che devi fare i lavori domani. Oppure ho abbinato a Mario le cose, non lo so. No, ma tanto so già come va a finire, quindi. Rientro a casa sarà intorno alle 4 e 5 del mattino, quindi so già come va a finire. Quindi devo caricarmi per te. Vabbè, divertitevela. Ciao ciao. Ciao Dino. Ciao Dino. Saluto nel QRA, buon QRT e buon tutto. Ce la risentiamo alle prossime. Ciao ciao. Veglia, ciao a tutti, ciao. Beh, signori belli, io faccio QRT, ci riascoltiamo tutta domani, Mario se mi sta ascoltando, ci sentiamo in radio domani, dai. Buonanotte Gianni, buonanotte Vela, buonanotte Antonio, buonanotte Romponio, buonanotte Mario, dai, e eventuali ascoltori. Ciao ciao, QRT da parte mia. Ciao Falchè, buonanotte, dai. Anch'io chiudo, dai. Ciao a tutti cordialmente, buonanotte a tutti. E quello di per me, dai. Ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Falchè, buonanotte, buon QRT, buon tutto. Non ti dico mo' 144 perché i dici che è già nella culla, così che quella lì non è più una novità. E niente, ce la risentiamo tutta le prossime. Casomai, non lo so, io la radio l'accendo, poi se sono loro ci diranno, se no pazienza. Cappa, dai, ce la ascoltiamo domani mattina, Mario, al limite, dai. Va bene, di nuovo saluti a tutti, ciao ciao QRT da parte mia. Ciao ciao Mario, ciao anche Alice, dai, faccio quelli anch'io, vi saluto tutti cordialmente, ciao ciao. Oh, anche a te. Buonanotte, buon tutto, e ce la riascoltiamo alle prossime trasfusioni. Gatta gatta. Grazie.